vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Giorni pensavo di essermi disintossicato dalla Zanzara e invece è bastata solo una puntata e sono ricaduto nel tunnel. Dice no al direttorio, manda quel paese. La disperazione vera è ascoltare il podcast della Zanzara rallentato, così dura il doppio. Quello era Parenzo rallentato, no? L'hai sentito? Parenzo rallentato. No, non l'ho sentito. C'era Parenzo, tu sei distratto. Non sembrava neanche la mia voce, non l'ho riconosciuto. No, eri tu rallentato, di uno che sentiva il podcast rallentato, così il podcast dura di più, capito? Ah. C'è gente di tutti i tipi, come sai qua, no? Gente che sta male, certo. Allora, ragazzi, io voglio dire una cosa. Torniamo a parlare per l'ennesima volta di questa vicenda dei 5 Stelle, eh. Beh, per forza, di sì, però ci ha fatto due mi sono fatto due coglioni così. Poi uno che dice che parla di prostitute, dice che parla di gay, dice che parla di altre cose. Cioè, ci sarebbero delle altre cose di cui parlare che interessano di più la gente, non i gargarismi dei 5 Stelle su Roma. Governassero, non ci rompessero i coglioni con queste cose. Basta, no? Sembra peggio di Zamparini, la... come si chiama? La Raggi, dai, su. Caccia più assessori lei di quanti allenatori cacci Zamparini? Sì, questo. Questa è Bai, non mi ricordo chi, forse è Bai Poli o Bai qualcun altro, non so chi se l'ha inventata questa. Non è farina del mio sacco. Però, è vera però, ha cacciato più assessori di quanti, in proporzione, di quanti allenatori abbia cacciato il signor Zamparini. L'ultimo assessore cacciato, ripeto, non frega nulla a nessuno degli assessori. Quanti assessori? Chi sono gli assessori? Interessa solo te, che non interessa nessuno chi sono gli assessori, quanti sono gli assessori, importa solo quello che ma fai. Ma interessa il casino che sta succedendo, questo sì, interessa allora, chiunque. L'ultimo credo, in ordine di tempo è un signore della Corte dei Conti che non si è mai fidato nessuno, uno che non conosce nessuno, che si chiama De Dominicis, uno che ha detto Sprid una volta in un'intervista, ha detto anche, non mi ricordo quali altre castronerie. E soprattutto è uno che ha detto a me veramente di fare l'assessore me l'ha chiesto l'avvocato San Marco, che è quello amico di Previti, no? Cosa incredibile, perché di solito il fratello di quello, sì, dello, vabbè, studio Previti, il fratello. Allora, di qui siamo, normalmente davvero, il sindaco nomina un assessore, non è che uno appena nominato dice no, a me me l'ha chiesto un avvocato. Beh, no, c'è qualcosa che non funziona. Vabbè, si è dimesso. Hanno scoperto adesso i 5 Stelle che non è compatibile. Ma come? Avete detto fino all'altro giorno che era assessore, eccetera, controllate prima i curricula, no? Cioè, controllate prima se è compatibile. Poi perché non è compatibile? Perché non ha abbandonato l'incarico alla Corte dei Conti? Una roba incredibile, dai. Allora, Raggi, abbiamo già nominato De Dominicis nuovo assessore al bilancio. Senti. Abbiamo poi nominato il nuovo assessore al bilancio. Anche qui si tratta di una persona di primo rilievo. È il procuratore generale della Corte dei Conti Lazio, Raffaele De Dominicis. Un magistrato che ha sempre lottato per la legalità e per la trasparenza. Tra le inchieste più importanti ricordiamo quella su Parentopoli, quella su Affittopoli, quella per la quantificazione del danno erariale. Cioè, tu capisci? Questo era il 5 settembre. Cioè, il 5 settembre... La Raggi dice: abbiamo nominato questo che ha dei meriti altissimi. Beh, c'ha, ragazzi, oggi è l'8 settembre, eh? C'ha due coglioni così. Dopodiché lo cacci. Beh, cioè, beh, lo cacci è perché. È durato 4 giorni. Ma, no, ma tu hai detto che c'ha due palle così. Adesso poi dice che ce la fa. 4 giorni, tanta roba, ormai. Dai, su. Ma ti ripeto: Zamparini al confronto è un genio. Cioè, Zamparini al confronto è un numero uno. No, è un moderato. È uno che non caccia nessuno. 4 giorni. L'hanno nominato dicendo che era il migliore con tutto l'elenco delle cose fatte. Dai. C'è un altro, un consigliere comunale sempre dei 5 Stelle, che si chiama Stefano, non Stefano, so. Stefano. Sì, certo, Stefano, giusto. Che dice: De Dominicis è una nomina di altissimo piano. Sempre il 5 settembre, 5 settembre, non l'8, il 5 settembre. Nomina di altissimo piano, senti. È una nomina di primissimo livello che personalmente mi trova molto soddisfatto. Che però è stata portata avanti dall'avvocato San Marco. Si è stata portata avanti, non lo so. Come non lo sa? Lei nel momento dovrebbe saperlo. Sembra che sia stato il metodo condiviso quello con cui avete scelto i nostri. Nel senso, a me non interessa da chi è stata portata avanti la nomina. Io ho una visione molto anglosassone e pratica del mondo. Cioè, se una persona è brava e competente, per me va bene chiunque la nomini. Beh, questa è buona però, eh. Questa in teoria è così. Poi. ragazzi. Questo è giusto, passo in avanti. Sì, però giusto, posso dire una cosa. Secondo me tutti quanti possono criticare i 5 Stelle, naturalmente. Però quando io sento l'ultimo a parlare dovrebbe essere Alfano. Cazzo, l'ultimo a parlare dei 5 Stelle. Poi non si capisce perché il ministro degli interni parli dei 5 Stelle. Cioè, così. È anche un leader politico. Sì, va bene, ma occupati di fare il ministro dell'interno. Lo fa. Lì a giudicare i 5 Stelle, che non te lo puoi perdere. È un leader politico. Ma di cosa? Di un partito del nulla? Di che cosa? Leader politico di cosa? Di un partito. Di un partito che sta in Parlamento, nel paese non c'è. Cioè, nel paese non esiste. Anche nel paese. Ah, nel paese c'è. Con le sue percentuali ci sta. Ah, sì, certo. Con diritto. Cioè, il leader di un partito del nulla, che è un partito che vale nulla, totale nulla. Dal punto di vista, no, del nulla di contenuti, poi ognuno la giudica, ma è nulla come numeri. Ministro all'interno per caso, per scambi politici, eccetera. Eletto con Berlusconi, poi, no, poi aggrappato alla poltrona per contro del centro-sinistra di Renzi, che dà lezione ai 5 Stelle che pigliano il 65% a Roma. Dai, su, ragazzi. L'ultimo che può parlare è il signor Alfano. Però poi capisco che, come dici tu, la lotta politica, no? Il Movimento 5 Stelle non ha superato il crash test e non aveva l'airbag. E quindi si è andata a schiantare. Ah, fa pure il battutista, capito? Il crash test. Non faccia una piega, però, mi pare, giusto? Di Maio un coniglio, senti. Siccome credo che l'Italia abbia bisogno di uomini coraggiosi e non di conigli, io spero che ricompaiano in TV, vadano sul blog e spieghino cosa significhi per loro concretamente la coerenza. La coerenza, Alfano parla di coerenza, ragazzi, ma no, non puoi non dire nulla su questa cosa qua. Alfano che parla di coerenza, non se ne può più, dai. Abbiamo superato il limite con questa cosa qua. Allora, ma ha ragione, dice devono vendere conto. Alfano ha ragione, Alfano non può avere ragione. Cioè, Alfano ha perfettamente ragione. Allora, Di Battista ieri sera Grillo ha dato il massimo, il meglio di sé, perché quando fa il comico è il meglio di sé. No, cioè non c'è niente da fare, è così. Beh, la Raggi sì, è il primo sindaco negro, come il primo sindaco negro del Mississippi. E voglio dirvi una cosa, in che situazione è oggi Virginia? È nella stessa situazione del primo sindaco negro nel 1968 nel Mississippi. Hai capito? Allora, era impossibile che i negri potessero andare e integrarsi con i bianchi. Bene, l'impossibile non c'è, l'impossibile siamo noi. Capisco il comico, eccetera, però c'erano dei problemi un po' più gravi all'epoca. Insomma, il paragone non mi sembra calzante, però Grillo è un maestro in queste cose qua. Grillo, infatti, questo dovrebbe fare solo questo, effettivamente. Allora, senti questa cosa qua, che è stupenda, che dice: la reazione del sistema, il famoso sistema, i famosi poteri forti. Io mi aspettavo di peggio, dice Grillo. La cocaina, gli omosessuali, gli spacciatori. Ci sono associazioni gay incazzate con Grillo per questa cosa qua. Mi sembra ridicolo adesso, francamente. I gay si incazzano per tutto. Mi fa diventare matto questa cosa qua. Qualsiasi cosa si incazzano. Adesso Grillo non può nemmeno fare una battuta, non può nemmeno fare una metafora. Che questi si incazzano. Cosa c'è da incazzarsi? Non è che è contro i gay. Ha detto semplicemente che si aspetta le polpette avvelenate, no, dal cosiddetto sistema. Dai. So una cosa, che la reazione di questo sistema a noi è una cosa bellissima che sentiamo sulla pelle, ed è poca, io mi aspettavo molto di più, aspettavo un avviso di garanzia a me, aspettavo 5 kg di cocaina nella macchina, aspettavo che lui scoprissero finalmente che è un omosessuale. Allora, lui era Di Maio. Allora, io voglio far ascoltare questa cosa di Di Battista adesso, che secondo me doveva fare il sindaco di Roma, poi questi qua, siccome era in Parlamento, non poteva fare il sindaco, eccetera. Vabbè, comunque, Di Battista, che dice no alle Olimpiadi, ora, per me va benissimo, ottimo, stupendo, però è il sindaco che dovrebbe dirlo. Il sindaco dovrebbe andare in televisione, ha detto Roma non vuole le Olimpiadi, chiudete baracche e burattini. Di Battista che attacca Caltagirone, Montezemolo, Malagò, tutti, sentite. E scopri che Caltagirone ha la possibilità, l'esclusiva della costruzione dei decreti sui terreni di Tor Vergata. Lo stesso Caltagirone che è proprietario del Messaggero, proprietario del Mattino di Napoli da cui viene Orfeo. Lo stesso Caltagirone che si è sentito un padrone di Roma per tanti anni, insieme a Montezemolo, insieme a Malagò. E noi dovremmo far fare a costoro le Olimpiadi, allo stesso Montezemolo. Vorrei segnalare al signor Di Battista e ad altri che noi qui alla Zanzara siamo in grado di mandare questo file audio del tuo comizio ieri, in cui attacchi Caltagirone, Montezemolo, Malagò, eccetera eccetera, tutti dicendo che sono delle persone che vogliono fare i soldi con le Olimpiadi, ok? Io sono d'accordissimo peraltro con questa cosa qua, però noi siamo in grado di mandare questa roba qua, di mandarla in onda. Ma io però chiaro? Sono favorevole alle Olimpiadi. Tu sei favorevole, infatti, tu sei favorevole, a te che te frega, sei favorevole. Io sono contrario perché, ripeto per l'ennesima volta, se uno vuole distruggere definitivamente Roma, allora organizza le Olimpiadi, poi padrone di farlo, la distruzione è anche vitale, no? Poi dalla distruzione si rinasce, come dire. Ma il vegano in autostrada come farà a schivare tutti gli insetti? Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, la mia amorosa mi caga il cazzo perché ascolto La Zanzara. Stasera salgo sulla sua macchina, accendo la radio e cosa c'è sintonizzato? La Zanzara. Fottuta anche lei. Allora ragazzi, ripeto, Zamparini al confronto è un dilettante rispetto alla Raggi. Allenatori che caccia Zamparini, assessori che caccia la Raggi. Senti, ti devo far ascoltare una cosa prima di mettere un po' di ascoltatori. David, quando non c'eri ieri sera, a un certo punto abbiamo sbagliato il numero di Sgarbi. Cioè, mi ha chiamato perché era incazzato su questa storia dell'AIDS, voleva spiegare l'AIDS, i gay, eccetera eccetera. Sbagliamo numero e senti che è uscito fuori, senti. Sbagliamo numero e ci risponde uno, sai quando sbagli i numeri, no? Sì, beh, capita. Sì, capita, uno fa una cifra in più, uno cambia, no? Oppure invece di mettere il 3 finale mette il 4 finale. Senti. Che è Vittorio? Vittorio, dai, mi ha chiamato prima, rispondi, no? Vittorio? Oh. Mi sa che ha sbagliato numero, scusi. Come ho sbagliato numero, scusi? Stavo cercando Sgarbi, lei chi è? No, guardi, no, c'è un errore perché lei chi è? Io sono quella proprietà di questo telefono. Ma chi è? Scusi, lei? Simile. Ma non è simile, perché è simile? Ma lei ha preso in mano il telefono di Sgarbi? Sì, vabbè, arrivederci. Scusi, ma è una vergogna. Perché prende in mano il telefono di Sgarbi? Perché? Ma lei sta fuori? Ma non sto fuori, lei prende. Abbiamo fatto il numero di Sgarbi e ha risposto lei, è una vergogna questa cosa qua. No, io il mio numero è... Ma io la denuncio, io la denuncio. Arrivederci. Ma arrivederci cosa? Ferma là, ma che arrivederci che cosa? Arrivederci, questo è il mio numero, la ma smetta. Quale numero? Ma quale numero? Ma si vergogni? Ma quale impazzito? Ma non sono impazzito, abbiamo fatto il numero ma di non Sgarbi, non so chi è. Ha risposto lei e io voglio una spiegazione da questa roba qua, voglio una spiegazione. Questo è il mio numero di telefono, non va è... bene? Abbiamo fatto il numero di Sgarbi, di non Vittorio è il Sgarbi. Non il numero di Sgarbi, perché spesso mi succede che mi chiamano ed è sbagliato. Ma lei è una truffatrice, glielo dico io, lei ha preso in mano il numero, il telefono di Sgarbi? Ha preso... Ma io lo sto spiegando. Senta, la prego, questo è il mio numero di passi, telefono. Mi passi il telefono a Sgarbi. Ma chi le passo? Mi passi Sgarbi. Mi passi... Ma come glielo passo che non c'è, sto a casa mia? A casa sua, ma non racconti cazzate. Dov'è questa casa? Ma che è lei, scusi. No, scusa, mi passa un attimo Vittorio Sgarbi, per favore. Che le passa? Era uno scherzo, perché chi le ma passa? Ma che scherzo? Ma io sto a casa mia, la prego. Io sto a casa mia. Mi senta, ma che Vittorio Sgarbi? Ma dove lo piglio Vittorio Sgarbi? Ma chi lo conosce? Ridia il telefono a Sgarbi. Sì, come glielo do che sto a casa, la smetta, la prego. Mi stai veramente importunando. Sì, lei mi sta importunando. Io ho chiamato Sgarbi e lei mi deve passare Sgarbi, ha capito? Ma come glielo passo che non c'è, sto a casa mia? Guardi, questo è il mio numero, veramente. niente, basta. Guardi che la denuncio sul serio, eh? La denuncio sul serio per appropriazione, per appropriazione, per appropriazione di cellulare, appropriazione indebita di cellulare. Ma che cellulare? La mala smetta, che sono anni che mi chiamano. Anni? E cambi telefono. Allora cambi, se fosse vero quello che dice, deve cambiare telefono. Perché non cambia numero? Fosse vero quello che dice, io non ci credo. Non voglio cambiarlo, a lei non ci credo, ma mi interrompa! Lei deve... No, lei cambi telefono! Capito, sì. Ma poveretta, poverina. Perché secondo me alla fine c'è un numero di telefono finale. Esasperata, poveretta. Vabbè, dai, dove andiamo? Enzo, Carbonia, vai, Carbonia. Carbonia in Sardegna. Sì, Sardegna. Sì, sì, sì, Carbonia. Vai, vai, parla Enzo, dai. Sì, allora, mi racconto l'incontro fatto con Di Battista il giorno di Ferragosto. Ero lì in vacanza e a un certo punto vedo questo signore che si muove incuriosito, mi avvicino e vedo che e comincia, dai che facciamo un bel selfie così lo mandiamo a Di Maio che è in vacanza a Creta. Allora? Siamo in tanti e gli ho detto ma è in vacanza come sei tu qui a Ciampedì, perché devi dire a questa gente come fai a fare politica con 3.000 euro al mese. Vabbè, e allora? Io faccio politica. E allora lui si è, come possiamo dire, adirato, si è allontanato, gli ho detto no, io ho insistito chiedendo, e allora si è avvicinato, prima di tutto mi ha messo le mani davanti, gli ho detto di toglierlo, e ha cominciato a dire che lui faceva effettivamente... Enzo, vogliamo andare al sodo? Andiamo al sodo, cosa vuoi dire? Il sodo è che lui ha detto delle falsità come sono abituati a dire. Ma su che cosa? Su cosa? Sul fatto che fa politica con 3.000 euro al mese. E beh, farà perché politica lui... con 3.000 euro al mese, ma... No, perché lui prende 5.000 euro netti come parlamentare, ne prende 3.509 euro... Ma poi ne danno una parte, suoi, no? Ne danno una parte. Collaboratori, per i suoi collaboratori. Poi prende 3.509 euro al mese per stare a Roma. Quindi lui prende, come tutti gli altri... Sì. Ma danno una parte di stipendio, no, a quel fondo? La parte di stipendio, da quando io seguo la politica, la danno tutti quanti i parlamentari. Insomma, tu che conclusione partito. Sono degli imbroglioni, dici? Sono dei, come possiamo dire, dei milantatori. Dei milantatori, va bene, ciao, Franco da Roma, dai. Franco? Pronto? Sì, Franco, dimmi. Sì, mi senti, ciao, senti, volevo rispondere solo a cosa, come si chiama, a Rocco, a Sifridi. Sono Rocco Sifridi, che c'entra? Che c'entra Sifridi? Rispondere a una sua afferma, quello che ha detto, che lui è morta la mamma la stasera. Vabbè, insomma, che vuoi rispondere a Sifridi? Ha raccontato una cosa... Un proverbio brasiliano. No, non c'è nessun proverbio, dai, su, Franco. Senti, fa rispondere a me, poi te devo dire l'altra cosa. No, dimmi prima quell'altra cosa. Ma fammi dire, dopo voglio parlare del muro di coso. Del muro di coso? Che vogliono fare Dover, degli extracomunitari. Ti piace? Ti piace? Ti piace il muro? Sì. Io farei subito, io metterei tutte le mine invece sul mare nostro, metterei mine, quando arrivano i barconi, boom, ecco. Ma come le mine? Non ho capito, cioè tu invece del muro vorresti mettere le mine nell'Adriatico? Il muro noi non lo potremmo fare, che fa? Il muro in mezzo all'acqua, qui manca il ponte, riescono a fare, figurati. E dunque tu, la tua ricetta contro l'immigrazione è mettere mine nell'Adriatico, mine, nel Tirreno? Mine sul mare, quando arrivano i barconi, adesso che sono state le mine, poi sono problemi tu, poi sono problemi loro che fanno venire. Cioè non ho capito, tu? Ecco tu. Franco, aspetta, che gentaglia. Franco. Ma non devi andare sul 105, soltanto devi portare presso quella quel coso, devi portare. Aspetta, Franco, di Parenzo t'hanno preso, eh. Sì, beh, certo, infatti è per quello. Senti, professore, Franco, dove l'ha lasciata l'umanitale? Fermi, Franco, io non ho capito una cosa. Tu hai detto che vuoi mettere le mine nell'Adriatico. No, visto che l'Inghilterra può fare il muro. L'Inghilterra ha finanziato comunque in Inghilterra per fare il muro lì a... Allora invece noi che dobbiamo fare? Ecco, noi il muro in mezzo all'acqua non lo possiamo fare, certo. Mettiamo tutta una fila di mine, tante navi ci stanno attente. Cioè quello lo facevano, ti ricordi, Parenzo, minare i mari era una cosa della seconda guerra mondiale, no? Ti ricordi? Adolfuccio mio metteva le mine dentro al mare, capito? Per proteggersi. Adolfetto mio. Ma se uno ha come mito Hitler, amico mio, tu hai come mito Hitler. Cioè, capisci che non si può ragionare così, no? Cioè, il tuo mito è Hitler, perché lo chiami Adolfetto mio. Sì, per forza, ha fatto tante cose fatte bene. Adesso prima di andare a ferie, prima di luglio, Davide, che devi fare? Che bisogna fare qua? Devi prendere. Gli hanno sputato del cervello, poveretto. Che gli devi fare questo qua? È un malato, che gli devi fare? Niente, compatirlo, poverino. Ma Froci, ho agganciato su WhatsApp, ma so cazzi vostri, dai. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Cruciani, mo ti spiego. Di essere vegano e acchiappi femmine a terremoto, a cataclisma, e poi nel privato ti mangi l'hamburger, ma dicendo di essere vegano, s'acciapp. Sono disperato, la mia fidanzata mi ha detto che mi lascia se decido di allevare le galline, lei è una vegetariana, o meglio, se le uso solo per le uova va bene, se invece gli tiro il collo mi lascia, che devo fare, Cruciani? Ernesto, Roma, vai Ernesto, vai. Ciao, buonasera Cruciani, volevo dire che siete una banda di incompetenti e di dilettanti allo sbaraglio, voi e tutta la stampa, le radio e le televisioni italiane, che sempre addosso a sta rabbia ai 5 Stelle, che per me sono dei fracassoni della politica, gente che non vale un cacchio. Solamente allora... così gli state portando l'acqua coi secchi. Cioè voi, tu dici che tutto questo fuoco... Tutto questo casino gli gioca, ho perché l'opinione pubblica ha capito benissimo che è strumentale, non si può dopo 2 mesi, fate passare almeno 7-8 mesi. Questi ce li troviamo per 20 anni al governo. Sta accadendo la stessa cosa che è accaduto con Berlusconi nel 94, quando... Come si chiama questo genio politologo? Ma vai alla 7, non rompere le scale. Chi è il politologo? Ma vai alla 7, è già lì, è già fermo lì. Come si chiama il politologo? Ernesto da Roma. Lavora per la 7, adesso sta a zanzara che non ti appartiene. Ernesto. Non si può dopo 2 mesi attaccare così 5 Stelle, si fa il gioco loro. Sta dicendo una cosa, Ernesto sta capendo che siete degli stronzi, che siete tutto strumentale e quindi li premierà anche alle politiche. finitela per favore, se no ci troviamo questi quattro scemi per 20 anni al governo. Però non ha torto Ernesto, al di là del fatto questo nuovo editorialista, diciamo. No, però scusami Ernesto, dice una cosa, nel bordereau del programma, nel bordereau. Vabbè, ma che c'è? Aspettate almeno altri 5-6 mesi, ma dopo 2 mesi, Cristo. Ernesto, io dico, però io dico, è un politologo finissimo questo. No, scusa, adesso non è sto scemo. Ma perché non sei sta zitto, sto scemo? Bravissimo, ha proprio questa cultura anche, no, dei sistemi politici. Adesso non è che ci vuole la cultura dei sistemi politici per avere dare un giudizio sulla Raggi. Sta dicendo, hai fatto un'ottima scelta, bravo. Alcuni hanno Luca Ricolfi, noi abbiamo questo Ernesto. Guarda, questo Ernesto lo preferisco, insomma. Adesso io dico una cosa, Ernesto dice una. Che c'hanno Parenzo, come stanno bene. Ma non è pagato questo qui, però. Non è pagato. No, chiedo, Ernesto, Ernesto, non pronunciare parole bordereau, che la gente non capisce. No, bordereau. Impara, questi somari ascoltano, si incuriosiscono perché non tu sai cosa. Tu sei borderline, meglio che te ne vai, senti a me. Eccolo, senti a me. Però bravi, Ernesto, ha una schiettezza di linguaggio, no? Questo nuovo politologo che hai scoperto. Però ma io non ho scoperto nulla, è una vita che chiama la zanzara, Ernesto. Allora, ecco, Ernesto dice che la montagna di cazzate, secondo Ernesto lui. Ernesto dice, cioè già il fatto che tu alle 19 ma dopo 2 mesi, capisci? Dopo 2 mesi è da cretini. Ma chi è? Ernesto dice. Sembrate tutti pagati. Secondo me è Grillo che amici mi paga. Miei, Ernesto dice. Ma mi alzo in piedi. Guarda, mi sono alzato in piedi perché Ernesto. Alza di piedi. In piedi, sì. E togliti pure i mutande, guarda. Vedi che finezza che è. Ma che uomo di stile che ha scelto. Che grande columnist che hai preso. Bravo, bravo. Ernesto mamma dice mia. Che quello Ernesto che. Dice quello ancora. Che l'informa. Quinta liceo che hai fatto. Guarda, te la vendi tutti i giorni, eh. Ernesto dice. Allora, quello che Ernesto sostiene è questo. Ecco, I giornali, le televisioni, eccetera, concentrandosi sulla Raggi, hanno rafforzato i 5 Stelle, giusto? Ma è un'osservazione acutissima. Vedrai alle prossime elezioni politiche. Ernesto vedrai. Ti sta dicendo che sei un cretino, Parenzo, sostanzialmente. Totale. Da lui è un complimento, guarda. Lui non capisce una mazza, è un complimento essere chiamato cretino da Parenzo. Lei dove, in quali accademie ha insegnato, professor Ernesto? Nessuno, l'Accademia della Vita magari, no? Ecco, bravo. Guarda, no? Io sono anche uno scrittore, ma non mi voglio fare pubblicità. No, è meglio che sto zitto perché più parlo con te e più mi inserisco, capisci? Non si capisce della proprietà. E quali opere ha prodotto, Ernesto? Quali opere ha prodotto? No, non mi voglio fare pubblicità. Uscirà anche il film tratto da un mio romanzo fra qualche tempo. Un romanzo, il suo romanzo, sì. Il romanzo su Mauro La Mantova avrà fatto al massimo. No, è umoristico, satirico, di carattere psicosociale. Un romanzo satirico. Di carattere psicosociale, dice. Di carattere psicosociale, sì, va bene, d'accordo. Va bene, Ernesto, ciao. Vi dico solo il titolo, Il Cravattaro. Il Cravattaro. Roma, Borgo Pio. Imperdibile. Quando sentirete Il Cravattaro, andatelo a vedere perché non mi andate ancora un centesimo. Non mi pagheranno con la proprietà delle librerie. Come? La polizia, sì, ho visto già, c'è la polizia a cavallo fuori dalla Feltrinelli perché c'è la fila per la gente andare a comprarlo. C'è la polizia a cavallo, ho visto a Roma. Ma non è ancora la polizia a cavallo. Film che mi pagano con una percentuale sugli incassi, quindi più gente ci va, più guadagno. Ma magari è vero che ha scritto la sceneggiatura. Ho scritto il romanzo. Come si chiama sto romanzo? Il Cravattaro? Il Cravattaro. Che sarebbe l'usuraio in realtà, no? Sì, sottotitolato Ironia e satira sulle travagliate notti di uno strozzino romano. Capito, Parenzo? Cioè, è pazzesco, è imperdibile, l'ho visto in testa tutte le classifiche, che è pazzesco. Fenomeno letterario. Davide da Verona, vai, Davide. Sì, ciao. Dimmi. Ciao. Io non sono né romano e non sono né scrittore, quindi spero comunque di poter dire. Sono solo veneto, quindi. Sei veneto, dov'è? Sì, puoi dire quello che ti pare, basta che ti sbrighi. No, perché forse non eccito gli animi. No, una cosa, due cose se posso. Sì, la due prima cose. È sull'attacco gratuito alla signora telefonicamente. Sinceramente non me lo aspettavo da te. Ma quale attacco? Attacco di che? Quale attacco? Ma è una evoluzione un po' della tua radio, nel senso che. Davide, ma quale signora? Quella del numero sbagliato di Sgarbi? A domicilio è stata fatta questa cosa. Tra l'altro mi sembrava anche parecchio alla fine. Parecchio presa la tipa, quindi anche. Vabbè, Davide, ma cosa vuoi? Non ho capito, cosa vuoi? Niente, no, questo era per dire che io personalmente la cosa non aveva dato fastidio. Ti ha dato fastidio il fatto che abbiamo per sbaglio intercettato quella signora e io pensavo che... No, ma ha insistito, sì, allora... benissimo che stavi sbagliando. E quindi è arrivato lo psicologo. La sua, no, la, no, la sua tranquillità domestica tu l'hai in qualche modo violentata. Ah, oddio, ho violentato la tranquillità domestica. Guarda, no, sono particolarmente colpito da questa cosa. Guarda, mi sono andato a confessare ieri sera. Mi sono andato a confessare. Stamattina mi sono andato a confessare. Ma dai, su. Ma non si fa, non si chiama a casa della gente dicendoti denuncio. A parte che ci siamo sbagliati, a parte che ci siamo sbagliati. E poi a un certo punto mi sono divertito. Mi sono divertito, sì. Mi sono divertito, allora? E io non mi sono divertito. E vabbè, chi se ne frega, ciao, mi hai rotto i coglioni. Donato da Varese, vai. Donato. Ah, Donato. Parenzo, c'è Donato. Sì, dimmi, Donato. Niente di nuovo, sotto il sole. Che è successo? Niente di nuovo sotto il sole? No, vorrei soltanto, purtroppo tu sai che è l'unico finestrello che ho, dalla quale posso dire tutte le mie cose, che peraltro sono condivisibili con i miei 12 milioni di fan, di persone che hanno... Quanti? 11 milioni, dicevo. Come? 11 milioni? Sono diminuiti, purtroppo. In che senso? Ma non lo so, sono diminuiti perché alcuni erano dei fake, dei falsi. No, ma tu hai 11 milioni di fan, Donato? Io ho 11 milioni di fan, potenzialmente parlando. Ma dove? Dove ce l'hai questi 11 milioni? Dove ce l'hai? Tu dici, ci sono soltanto sui messaggi privati, solo di Facebook, ma arrivano dai 150 ai 200 messaggi privati dicendo se è la nostra forza, se è la nostra energia, se è la nostra... Come l'amico immaginario. In Italia non esistono persone che rischiano la vita come la stai rischiando tu per noi. In queste ultime, diciamo, sì, questi ultimi giorni sono accadute in Italia tre cose orrende. Cioè, che sono successe? Dimmi. Una è quel porco di Erdogan. Che c'entra Erdogan adesso? Adesso anche con Erdogan. Che c'entra Erdogan, scusa? Siamo poco perché ha messo al bando la letteratura occidentale. Esattamente, mettere a bando fo è come se avesse fatto un piacere a me personalmente, però... Il fatto che lui abbia fatto una cosa di questo genere, che qui si nasconde tutta la dittatura islamica, tutta la dittatura islamica. Sì, tu pensa un po', se soltanto la Lega avesse un'editoria per sé e dicesse voglio mettere al bando la letteratura per dire anche islamica, io ti dico che tutta la sinistra avrebbe massacrato la Lega, ed è qui che c'è l'essenza del nostro fallimento. Vabbè, adesso andiamo oltre Erdogan con l'argomento vecchio. Che c'è di più fresco, Donà? Per quanto riguarda Fertility Day, sì, a mio avviso c'è stata tutta questa grandissima massa di scellerati, di psicologi, di uomini di merda, di sinistra, che hanno pensato che questa promozione che ha fatto peraltro quella ministra, che probabilmente potrebbe anche essere, che se voglio dire, negativa, però è normale che ha detto una cosa importantissima. Cioè, allora io ve lo dico, io non sono qui soltanto per perdere il mio tempo, l'importante è che voi questo ve lo mettete in testa. L'Islam in Italia cresce ogni giorno. Ogni giorno l'Islam cresce. E allora? Quando ha visto che la nomenclatura, diciamo, intellettuale, compreso quella merda che è a fianco, non mi sembra che la merda, in quel caso mi sembra che si sia un po' sia rimasto un po' neutro. Ti dico che soltanto che andare contro a una campagna dicendo alle donne che devono fare figli è la cosa più bella che io abbia mai ascoltato in questi ultimi 20 anni. Mi sono messo i tabelloni in mezzo alle strade: donne italiane, fate figli cristiani, dovete fare. Questo qui non è il mio solito tema, tiro di Dio, ma è questo il problema. Hai visto il rettore della banda, come si chiama, la famiglia Piccardo? Addirittura, se avete promosso le famiglie gay, dovete promuovere, come si chiama, la poligamia. Poligamia. Ma voi sapete cos'è la poligamia? Sapete che ogni islamico può avere 5, 6 donne, 12, 14, 20, le ingravidano, fanno figli a bere. E dunque? Siamo fritti. Il discorso è questo. Che dobbiamo fare con sto Piccardo? Con sto Piccardo, che dobbiamo fare? Piccardo, bisogna chiamarlo in radio, Piccardo. E bisogna dire come si permette lui di attentare al cristianesimo, perché non male che se non di noi si chiamano 10, 15, 16 musulmani, non male che escono fuori migliaia e migliaia e migliaia di messera, ci saranno un sacco di reparti di ostetrici pieni di musulmani che faranno figli, e questi porci miserabili, ma tu sapresti, qualcuno dice io urlo perché io sto gridando su SOS, noi siamo addormentati le sinapsi, gli italiani non ragionano più. Aspetta un attimo, fermo, ti devo fermare un attimo, ti devo fermare, Donà, però devi stare calmo, sei sempre, sta calmo nel senso che va bene quello che dici, però non capiamo nulla, no Parenzo, non capiamo niente. Cioè, plastiche che gli italiani fanno male, la telefonata che fece, cioè, perché secondo te è malato, Donato, è malato. C'è un disagio del paese, la cosa che io mi domando domando e chiedo è come mai quel giorno i suoi genitori non hanno usato delle precauzioni. Cioè, tu dici non doveva venire al mondo Donato. Dici che c'ha 11 milioni di persone di seguaci. Quanti sono? 11 milioni dice, 11 milioni di potenziali seguaci. Ragazzi miei, 11 milioni. Sì, aspetta, fermo lì. Velocità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ciao Giuseppe, sono Anya, sono tedesca e vivo a Milano. Sto ascoltando la radio 24 per studiare l'italiano, ma con voi è impossibile perché dite troppe parolacce. E siete stronzi, eh? Eravamo con Donato, Parenzo? Donato? Donato Parenzo. Donato, la questione Sgarbi AIDS, vai. Sgarbi ha ragione, perché ricordo che quando è emesso questo problema dell'AIDS, io mi ricordo che si parlava soltanto di omosessuali, e che allora? Venivano come Roccazzo, poi più avanti morto, allora? Diciamo il grande. Io sento che gli omosessuali, purtroppo, il sesso per loro non era soltanto metterlo nel sedere e eiaculare, il sesso è come se fosse mamma stato per loro il sesso è come fosse stato, come io mi metto a mangiare, che dire, ma che ti voglio dire, prendo un caffè, ma diciamo, io ho conosciuto un omosessuale. Cioè sono più perversi secondo te? Porca di quella puttana! Allora, io mi trovavo a Milano una volta, mi ricordo, i bastioni. di Porta Venezia. Era un mio che suonava la batteria. Era un omosessuale, me lo disse. Allora, mi portavo in un posto proprio dove c'era un mucchio di ricchioni, ma non so se ci sono ancora. Io mi ricordo, dice, no, ti voglio bene, aspetti un po', la macchina era sua, io non avevo ancora patente in quelle cose. E mi ricordo che lui andava dietro una siepe, sì. Allora? E mi ricordo che io mentre aspettavo, non voglio fare la battuta, mi arrivò una come si chiama? Vabbè, ho capito, vabbè, allora? E allora mi venivano addosso. Ho capito, amico mio, ma qual è il problema? Il problema è che l'AIDS è una cosa che è riconducibile. Tu non sopporti gli omosessuali, questa è la realtà. Non li sopporti. Quel virus sembra che le abbia contaminato più gli omosessuali, perché avevano più sfrenata. Tu li odi. Ho ragione a Sgarbi, che ti voglio dire. Cioè, non, credo che adesso è normale che si espansa questa cosa col Parenzo, di qualcosa a Donato. Solo a Milano ci sono 40.000 puttane rumene albanese che c'hanno, sono sieropositive. Questo è un grandissimo problema. Che devo dire? Parenzo, di qualcosa a Donato, ti prego, di qualcosa. Ma cosa gli vuoi dire a questo qui? Ma che cazzo gli vuoi dire? Ma cosa vuoi dire a questo signore? Ma io per fare la con un omosessuale basta che lo guardo negli occhi e mi salta addosso, dai. Ma prima che la donna ti salta addosso c'è un po' di pudore prima di saltarti addosso. È un uomo solo, è un uomo disperato che si attacca all'8 00 24. Soprattutto so è gente malata. No, tu ha detto. Amica che mi potrebbe odiare, sono malati, è gente proprio malata, cioè non è inconcepibile che un uomo si metti dentro un uomo in un cazzo, ma non è una cosa buona. È malato, dice che sono malati. Loro possono fare tutto quello che vogliono, hanno il libero arbitrio di fare tutto, non voglio entrare, però se uno mi dice che cazzo sei omosessuale, sono delle persone che sono malate sessualmente. Sono malati, non voglio che Donato, Parenzo, dai una parola definitiva su Donato, hai detto che manco dovrebbe venire al mondo Donato, secondo te? No, ma secondo me c'è stato un errore in quel momento lì, l'umanità non è che ne avrebbe risentito. Ma se ce ne fossero di più come te, io adesso qui non potrei nemmeno esistere, perché tu sei un promotore dello sceno. Tu sei un promotore dello sceno! Di una parola contro quel porco di Dario Fo! Hai visto quel porco di Dario Fo che cazzo ha fatto? Che ha fatto? Ti hanno bandito quelle puttanate che ha scritto! In base a quelle puttanate che ha scritto non si è mica incazzato quella merda! Ma su che cosa? Quel finocchio mentale! Non si è offeso! Ha detto, lì c'è una specie di controrivoluzione, la merda! Una controrivoluzione che ha ritenuto non necessario che la mia lettera... E poi mi sento anche orgoglioso di trovarmi insieme ai grandi, l'unica verità che ha detto. Ma se quella cosa l'avesse fatta la destra in Italia, Fo sarebbe morto di crepacuore, perché avrebbe esagerato il suo grandissimo odio. Ecco perché Dario Fo non gli dovevano dare il proprio nome, gli dovevano mettere il premio, gli dovevano mettere con ficcara nel culo, perché quella è stata la vergogna dell'Italia. Ciao Donà, ciao. Marco Verona, vai. Marco. Marco. Marco. Mamma mia, Alessandro, vai. Pronto? Sì, Alessandro, vai. Alessandro, provincia di Bergamo, dai. Sì, buonasera. Vai, allora, io già quando sei rientrato lunedì hai detto che sarai ancora più incazzato con i vegani. Io volevo chiederti una cosa, chiedere questi qua. Io da più di 24 anni che lavoro, mi sto cervellando. Io un vegano non mi ricordo, ho fatto sempre lavori pesanti, ma un vegano che fa lavoro pesante, me lo presenti che voglio dire due parole io? Ma perché adesso sta cosa dei vegani? Perché tiri fuori sta cosa dei vegani? Non ho capito. No, perché c'è io un vegano che fa lavoro pesante io non l'ho mai visto. Vabbè, ma questa è una cosa che ho detto io sempre, cioè non ci sono vegani poveri, diciamo, no? Siccome il veganesimo si deve abbeverare di certi prodotti, eccetera, eccetera, sono prodotti anche costosi, in teoria sono è la classe un po' snob. Sì, però con la parte... forza lì non ce l'hai, cioè, se non ti mangi una bistecca, cioè vai lì fare un muratore, non ce la fai te, anche se ti mangi 3, 4, 5 salate al giorno. Non lo so, mi sembra... poi? Poi per i stranieri. Io sono d'accordo con certa gente perché anche io sono straniero, però ho sempre lavorato. E allora? E adesso che da qualche anno sono in difficoltà, giro e li vedo cosa fanno. Questi qua quando vengono qua li danno di tutto. Quando sono andato ai sociali, sai cosa mi ha dato? Cioè io ho 17 anni qua solo di contributi. Mi ha detto vattene a casa tua. Penso vabbè. Un po'. Andrea da Verona, dai, Andrea. Pronto? Dimmi Andrea, dimmi. Ciao ragazzi, io vorrei festeggiare con voi se possibile. Cosa? La chiusura di Italia Unica. Ah, ma dobbiamo parlare della chiusura del movimento di Passera lì. No, allora, il certificato fallimento di cui si sono resi conto loro stessi. Ma chi se ne frega, ragazzi, del movimento di Passera già valeva lo 0, prima, figuriamoci se devo parlare del fatto che chiude il movimento di Passera. Io ho già detto. Ma bisognerà pure festeggiare in qualche modo. Ma Andrea, non bisogna festeggiare nulla. Io avevo consigliato una cosa al dottor Passera tempo fa, quello di chiamare il movimento Forza Passera. Credo che chiamando il movimento Forza Passera avrebbe avuto molta più fortuna. Purtroppo ho voluto chiamarlo Italia Unica, che sembra la marca di un supermercato, un prodotto, eccetera, e ha fatto la fine che ha fatto. Avesse chiamato Forza Passera, qualche chance in più ce l'aveva. Ciao, ciao. Sì, ciao. Allora, caro Davide, ti devo presentare un personaggio incredibile. Un personaggio... Devo già tremare? No, non devi tremare perché non lo conosci, perché tu, anch'io non capisco molto di moto, di motori, eccetera, eccetera. Però è un personaggio incredibile perché praticamente ti distruggerà su una delle tue affermazioni che fai di solito qui alla Zanzara. Cioè sul fatto che consideri chi va a prostitute, chi va con mignotte, lo consideri un miserabile. Sì, questa persona qui, che è una persona affermata e che non ha problemi nel dire che insomma ha frequenta ancora un cospicuo numero di bordelli, ti dirà che è una cosa normalissima, anzi, probabilmente una cosa che fa anche bene alla salute e fa bene alla vita, secondo lui. E te lo presento o no? Lo vuoi sentire questa persona? Beh, o non vuoi siamo qui, che vuoi fare per forza? Allora, questa persona si chiama Carlo Pernat. Buonasera, buonasera. Ciao ragazzi, ho sentito già il Forza Passera che non era male. Forza Passera, se avesse chiamato il movimento Forza Passera sarebbe stato un trionfo. Ma saluto. Sai quanti voti prendeva? Te lo dico io, qualche migliaio in più sicuro, dai. Allora, aspetta, prima ti presento. Sì. Allora, Carlo Pernat, che lo conoscono tutti nell'ambiente del motociclismo come Don Carlo. È praticamente il manager, è stato il manager di tanti motociclisti, di tanti campioni, adesso anche di Iannone. E dico subito che a noi, caro Carlo, se la fa con la signora Belen, se trombo con la signora Belen Rodriguez, non ce ne può fregare di meno. Non ci interessiamo di queste cose. Dunque, manco te lo chiederemo se trombo o no il signor Iannone con Belen Rodriguez. Non te lo chiederemo neppure. Non ce ne frega. Non ve lo dico nemmeno. Appunto, tu non lo sai, tra l'altro, perché non è che vai lì nella stanza da letto dove stanno. No, non faccio voyeur, faccio altre cose. Ti piace il voyeurismo, ti piacerà però, Guarda, una volta l'ho fatto con un giornalista che ha pagato lui. Cioè, in che senso ha pagato lui? No, si è messo su una sedia, non posso fare nomi e cognomi. No, quello mai. Te lo giuro. Lui si è messo su una sedia mentre tu trombavi? Esatto, te lo posso garantire. Non è che dire, non posso fare nome e cognome, però non ci vedo niente di male, basta che fagli un altro. Alla fine sono anche genovese, ragazzi. Sì, certo. Allora Carlo Pernat, classe 48, conosciuto da tutto il mondo del motociclismo. Quindi anche una certa età ormai. Certa età, però non è che una classe 48 non è che ha mollato... No, per carità, però ho detto già uno... Non ha mollato gli ormeggi. Sostengono che sia uno dei più grandi, potrebbe fare una guida Michelin dei bordelli mondiali, forse. Giusto, Carlo? Sì, guarda, me l'hanno anche proposta, solo che il problema è che non puoi farla. perché non puoi farla perché va nei casini, dai, come perché fai? Va nei casini, scusa, perché in Italia non puoi farla perché è vietata la prostituzione, ragazzi. Vabbè, ho capito, ma se tu fai fai una guida dei bordelli, non, nessuno dice niente, la guida dei miserabili, cioè, ma no, che miserabili, tanto al posto dei cucchiai e delle forchette ci metto i sederi o la bocca, tre bocche, tre sederi, una cosa un po' diversa, diventa una cosa simpatica. Quelle buone, sì, invece delle forchette Michelin, com'è che si dice, le stelle Michelin, come si dice? Sì, le stelle, le stelle, le bocche Michelin, il cappello dello Però capito. Io volevo solo dire una cosa, allora, dimmi, Carlo, non capisco, io Parenzo lo rispetto, perché voglio dire, è un uomo che ha delle ottime idee, sì, a volte sono d'accordo con lui, a volte no, capita nella vita. Certo, assolutamente. Però essendo un uomo di cultura e anche di vita, non si rende conto che il bordello è una cosa sociale. Cioè, io non so, la gente che patisce di seme ritenuto, come dico io, cioè? Cosa fa? Il seme ritenuto è quando tu non trombi per un certo periodo, sì, io lo chiamo sì. Quando tu tieni il seme ritenuto. Ah, quando voglio tieni dire, il seme ritenuto, sì, per bravissimo. Capire. Allora, a quel punto lì io dico, ma uno che è timido con le donne, perché tanta gente è timida, mica assolutamente, come noi, assolutamente. Cosa fa? Fa l'amore con se stesso. È una cosa sociale. Dunque, funzione sociale. Alcuni, esatto, dicono anche, alcuni dicono anche salva i matrimoni, per esempio, no? Cioè, perché assolutamente sì, ma ti dirò di più: a parte che impara a fare delle cose che magari con la moglie non fa, e quindi si scatena sessualmente, fa felice anche la sua compagna, sì, tra sì. l'altro, e la compagna dovrebbe essere contenta di queste cose. Parenzo, capito? Sì. Ma io voglio dire, alla fine, non. Preso, non puoi mai dire che non hai pensato di andare in un bordello e non ci sei andato. Ci sei tanta ipocrisia in giro. Io spero che tu non sia un ipocrita, perché sei una persona per bene. Parenzo, sei un ipocrita tu? Però, insomma, ma assolutamente non ci sono mai andato. Il bordello di per sé non mi piace il concetto. Io sono a favore dell'apertura delle case chiuse, perché ritengo che sia meglio mettere la luce del sole. Bravo. Combattere però lo sfruttamento che c'è per strada. Vabbè, ma quello che c'entra, dai. Giudizio morale. Che cos'è? Che chi va prostituito è un miserabile, nel senso che sfrutta il corpo della donna. Davide, sei un po' ipocrita, perché se tu accetti il discorso dei bordelli, ed è giusto accettarlo, perché levare dalle strade questa per gente, togliere dalla strada le donne, tu dici strada. Che quello lo accetti e non accetti la strada, vuol dire dico che è la riduzione del danno, purtroppo, essendo il mondo popolato da miserabili e non potendo rimettere il dentifricio. Ma perché devi considerare Carlo miserabile? È quello che non ci va, io penso, anche perché non Carlo ha grano, lo considero miserabile al cubo, per la verità, perché capito, miserabile al cubo perché sfrutta il corpo delle donne, tu dici. No, non solo fa l'elogio della prostituzione e fa l'elogio dei suoi bordelli che ha frequentato, ma addirittura vuole fare una guida dove mette le delicatessen che ha. Scusa, ma qual è in questa guida? Gente salvo, ma sai quante gente salvo? In questa guida, Carlo, miserabile al cubo. In questa guida chi metti come primi bordelli, cioè il più straordinario che hai frequentato, qual è? Guarda, io penso che sia la catena dei Babylon, che sono in Austria. Babylon. Poi io dico, ci sono tutti i paesi civili, che noi consideriamo, io considero civili, Austria, Spagna, Germania, Svizzera, hanno tutti dei grandissimi bordelli, che sono castelli con soprattutto... Ma quanti soldi hai speso in puttane tu, in tutta la tua vita? Pronto? Carlo? Carlo? Ragazzi. Giovani, eccolo qua. Aspetta, Carlo, ecco. Quanto hai speso? Non ho capito. Quanto hai speso? Non sentivamo prima. Ma guarda, io ti dico una cosa: lì sono 200 euro per un'ora, però ti diverti. Tanto per dirti la tariffa. Però ma questo è ancora più bello in Australia. Australia è un altro paese bellissimo, pieno di bordelli pure là. Street che si chiama Penthouse a Sydney, che è uno spettacolo. Poi ci sono da tutte le parti. Ce ne sono in Malesia, che sono ancora più belli, perché lì fanno anche massaggi doppi, a quattro mani. Cioè, ogni paese ha la sua tradizione. Ma quanti soldi hai speso in tutto tu? Cosa ti saresti potuto comprare con quello che hai... Un bel appartamento sul mare, ce n'ho uno, l'avrei comprato un altro. Però l'avrei sfruttato portando qualche bella bambina. Io non capisco perché Parenzo deve... Che mi dicono, tra l'altro, Parenzo, che è una donna meravigliosa, io sono contento per te. Sì, si chiama Natania, si chiama Natania. Ma no, le persone intelligenti... Ma no, no, no, attenzione, non c'entra nulla con la sua Davide. Conversazione. Lei perché? È un bravo manager, non perché si faccia i fattacci suoi. Lei è un bravo manager di cose, adesso non ho capito neanche di chi è. Di Iannone adesso. Te la posso dire io, guarda, io l'ho fatto di Valentino, di Biagi, di Capitano. Pirossi e del povero Simoncelli, Re Iannone. Quindi va bene, sparo cinque nomi conosciuti. Fa il suo lavoro degnamente, guadagna i suoi soldi e li spende come certo, le pare. Certo. Che lei però, e fin qua chi se ne frega, lei può fare quello che le pare nella sua vita, non è che la... Certamente se la beccassi, se fossi un poliziotto e la beccassi che lungo la Salaria tira su ma una non delle ci ragazze, vado! Ma forse non hai capito, che una non vado. Ricca, lei che è un ricco va nella cosiddetta prostituzione d'alto bordo, questo frequenta. Ma che alto bordo? Ma che alto bordo? Mi sono anche innamorato. Guarda che delle volte mi sono anche innamorato di queste e queste venivano anche a casa mia, non volevano niente. Come hai fatto? Come, di chi ti sei innamorato? Non ho capito, di chi ti sei innamorato? Beh, qualche latinoamericano l'ho beccata, eh? L'ho portata anche in casa, è stata con me ospite una settimana. Ma qual è il weekend più caldo nel modo mondiale da quel punto di vista? Cioè, Spagna, minchia ragazzi. Se tu vieni agli Arezzo c'è il Don Tico che è uno spettacolo. Cioè, se ma... poi vai a Barcellona c'è Riviera, il Presidente. E Brno? Brno? Brno è la patria, la Repubblica Ceca ha delle donne meravigliose. Però ti dico una cosa. Ma si può dire che è un trombodromo e ogni tanto diventa... Io lo chiamo troiodromo, diverso. Il troiodromo. Sì, lo chiamo diverso. Però lì ricordati che... Sì. Prima era molto più facile, adesso non fate furbe. Cioè? C'è dei posti meravigliosi. C'hanno dei locali bellissimi, Moulin Rouge, sì. Velvet, però lì adesso costano, ragazzi. Ah, tu dici costano. Fate furbe, e fa bene. Cioè, costano i bordelli in Repubblica Ceca, dici? Sì, non è... Infatti dico alla gente, attenti, andate più in Austria che più a buon prezzo. Capito, li consigli il signor Pernat. Sì. Senti, scusa, sono curioso di una cosa, ma tu che idea hai? Cioè, le donne, tu hai detto una volta si dividono in due, o sante o troie. No, sono o sante o troie, vuol dire che sono il 50% sante e le altre pure, non so come dico, è diverso, ma io penso che le donne, io dico, poi dico una cosa che poi le donne mi dicono di tutto, le donne sono come i cani, le donne sono come i cani, cioè? Ma nel senso buono, perché quando gli parli sembra che ti capiscano, senso buono, questo è parte, sembra che ti capiscano, ma non ti capiscono mai, né quelle né l'altra, il problema la donna. È uno spettacolo perché noi uomini senza loro non potremmo vivere, ragazzi. Sì, ma perché dici che sono come i cani? Scusa, non ho capito perché. Perché quando gli parli sembra che ti capiscano. La stessa cosa, non ti capiscono mai. Io non so, è difficile vivere con una donna. Io ho vissuto con delle donne. Ma cosa guardi in una donna tu? Gli occhi. Gli occhi. Lo specchio, è lo specchio della responsabilità. E della la donna. Bocca? Cioè, dal punto di vista che cos'è? Cioè, perché dividi il mondo in due, le donne o sono sante o sono troie? Perché le vedi, dai, quando vai in questi posti non vai mica a cercare la santa, capite cosa voglio dire? Cioè, al momento, ragazzi, come fai a dire? Le donne sono, allora, adesso è difficile dirlo per radio, allora, le donne sono una cosa stupenda, bellissima, sì, sì. Però sono donne, nel senso che sono free. Allora, noi uomini, quando arriva una ragazza dal 6 in su, dal 7 in su, non ci pensa nemmeno andare a letto, si raccordano? No, non c'è dubbio, sì. Una donna normalmente, per andare con un uomo, se non è una prostituta, come si dice, qualcosa gli deve piacere, o l'occhio azzurro, la bocca storta, noi invece o il ginocchio. Siamo di bocca a noi buona. Ci va bene tutto, dai. Allora, dice, ha detto una volta Carlo, ha detto, un mio amico diceva che del maiale si tiene tutto. Però della maiala, il numero di telefono. Sì, sì, è il numero di telefono. Non è, questa non è male. Parenzo inorridito. Ma perché? Inorridito da questo cosiddetto filosofo contemporaneo, no? Questo miserabile filosofo contemporaneo. Lo sai che vuole morire come Rocco? Com'è che vorresti morire? No, io ho sempre detto che la donna italiana all'uomo gli piace o ricco o Rocco. No, ma tu come vorresti morire? Come vorrei, intanto non vorrei morire. Vabbè, quello è chiaro, ma quando muori come vuoi morire? Che mi venissero a prendere in un bel posto, in un troiodromo con una bellissima donna, anche con due, punto, tutto lì. Mamma mia, che cosa meravigliosa. Senti, ma è bellissimo! Ci sono secondo te gay tra i piloti di motociclismo? No, assolutamente. E no, perché non ci sono? Non lo so, non so se questa voglia di essere veloci, della velocità che ti... Cioè, secondo te è un mondo che respinge i gay? Assolutamente, molto maschilista. Molto maschilista. Lo posso garantire, sì, anche perché... cioè, potrebbe esistere un pilota gay, secondo te, o proprio non è possibile? No, no, assolutamente, guarda, no, ecco, io ho svezzato... non lo so, io che conosco io in questo mondo, no. Poi se lo sono, io, caro Davide, caro Giuseppe, questo non lo so, ma ti posso dire che tutti si divertono e tutti... Chi è quello che tromba, tra tutti quelli che conoscete, quello che tromba di più, quello proprio mai un pazzo scatenato da questo punto di vista, il più malato di tutti chi è? Non te lo posso dire, dai. Non me lo puoi come dire. Come cazzo faccio, dai. Non me lo puoi dire, certo, non me lo puoi dire. Io sono talmente seria come abbiamo sentito. Ah, no, non ma io sono serio. Ma cosa Non è serio. Scusa, ma le moto, secondo te, sono fatte per i gay, no? Cioè, andare in moto? Boh, perché no? Quelle soprattutto con tre ruote, sono più dolci. Ah, cioè, quelle, cioè sì, quelle con due ruote, cioè il mondo del moto, il mondo della, del mondiale, il mondo della, della, della no, un gay non, ma no, ma non per cattiveria, ma io che rispetto, ognuno fa quello che vuole però... nella vita, ci mancherebbe altro. È perché c'è troppo, qui bisogna essere cattivi, bisogna essere duri, bisogna avere un cervello di quelli molto, ragazzi, il motociclista ha un chip mentale, cioè non può essere effeminato, non può essere uno, non ce la fai, non ce la fai, cioè se sei gay non puoi, cattivo devi essere cattivo, vabbè ci stanno pure i gay cattivi, però ti voglio, cioè, ma parla per stereotipi, sto qui, incredibile, ma che stereotipi, ma cosa stai dicendo, è l'esperienza, cioè, che io vivo, cioè David, tu, io non entro nel tuo mondo dove tu vivi e ti rispetto perché sai ma le cose, ma che ne sa lei di cosa fanno i suoi piloti quando stanno, ma io a lo casa, so, ci vivo assieme, come stare, la nostra è come stare su una nave. Senti Carlo, Carlo, in tutta questa tua attività, eccetera, eccetera, di grande, come dire, quante donne ti sei fatto tra donne a pagamento e non a pagamento? Quanto hai fatto fino adesso? Un migliaio. C'è pure la spada di fuoco, no? Cioè, sei super dotato, no? No, beh, sai, adesso aiuti anche, ragazzi. Senza aiutini? Ma no, ma sei, come misure sei super dotato? No, normalissimo. Normale, dai. Normalissimo. Ragazzi, come te, come tutti gli altri, come quelli che normale. Sono ipocriti. Sai quando andiamo fuori che sono, si passano pieni zeppi di gente? Cioè, allora vuol dire che c'è un mondo pieno di ipocriti e di disabili. Cioè, tu nei weekend di Formula 1, di Moto Mondiale, è pieno di gente che va a bordelli, pieno. Assolutamente pieno. Sì, te lo posso garantire. Pieno di gente, pure i piloti, sì. Beh, non ce la fanno perché devono stare più concentrati, ma qualche volta in passato alcuni li ho visti senza fare nomi. Non mi venivano anche con me, si divertivano, basta. Finito. Vabbè, Carlo, ti saluto, ti abbraccio. Ciao, grazie, a presto. Saluti a tutti. Ciao. Ma è inutile discutere tanto, ragionare, parlare. Parenzo non capisce un cazzo. La Zanzara. Crociani, io mi sono rotto i coglioni, anche Radio 24, assessora, sindaca, ministra e tutte altre puttanate, ma fate i seri, assessore, sindaco, ministro, basta, perché mi va a perdere tempo con queste puttanate qua? Crociani, fa qualcosa, anche Radio 24, dove lavori te? È una vergogna unica, andate a cagare. Adesso, amico mio, io non so chi si sia allineato a questa cosa. Mi hanno segnalato che è vero che, non so, a Radio 24, lo stesso Parenzo alla 7, ogni tanto se ne esce con sindaca, se ne esce con assessora, ministra. Cioè la società, purtroppo, la società, almeno quella della comunicazione, si sta boldrinizzando. Una cosa di un fastidio mi dà questa cosa, però che devo fare? Qui c'è una roccaforte, una ridotta di resistenza nei confronti di questa cosa ridicola di chiamare ministra invece di ministro, sindaca invece di sindaco, anche se è donna. Resisteremo finché sarà possibile. Anzi, finché sarà possibile, resisteremo. Walter Perugia, vai, Walter. Eccomi, Cruciani. Dimmi. Buonasera. Dimmi. Una cosa sul tuo comportamento sul 5 Stelle, ma prima mi allaccio al Carlo, l'amico Carlo. Sì. Io sono d'accordo, secondo me la vittima non è la prostituta, ma la vittima è il cliente. Infatti sarà andato prima il cliente che la prostituta, sicuro, dall'esigenza, perché deve espletare un bisogno fisiologico, quindi ma qui ci vuole, innanzitutto l'amico Carlo Pernat dovrebbe fare una guida assolutamente dei trombodromi in giro per il mondo, su questo non c'è dubbio, anzi lo spingerò a farlo. Vabbè, dai, esatto. Allora esatto, quindi la vittima non vabbè, è Walter, allora? Il miserabile non è il chi va a prostitute. No, invece sui 5 Stelle ti volevo dire che tu sei un po' ridicolo sul 5 Stelle, soprattutto quando dici una cosa. Di Parenzo non ne parlo, lui è comunista, quindi sono fatti solo per contestare gli altri. Quando parli dell'onestà, cosa c'entra l'onestà con questo? No, ma l'onestà è quella che loro proclamano onestà. Ma non c'entra nulla. Amico mio, è arrivato, ma no, ma certo che non c'entra nulla, perché non ci sono nulla. Sì, ho capito. Quando tu dici loro si riferiscono, non ci sono reati, amico. Loro erano quelli che condannavano anche i politici solo indagati. Adesso c'è un assessore indagato fino a prova contraria e primo non lo cacciano, secondo non lo dicono, cioè basta, solo sicuramente questo. Sicuramente ci sono degli errori, stanno facendo degli errori anche abbastanza di inesperienza, però non sono disonesti, non ci sono reati. La sindacaraggi non ha Intanto pare che questo assessore che oggi hanno praticamente cacciato sia indagato, non so per che cosa, abuso d'ufficio, eccetera. Vabbè, Gennaro Caserta, vai. Fratello mio, te l'appoggio finalmente. Vai, Gennaro, dimmi. Senti una cosa, ti volevo dire una cosa. Comunque la dobbiamo smettere di parlare con sempre questi assessori, questa sindachessa Raggi, le solite cazzate di Battista, Peppe Grillo. Parliamo di cose serie, di cultura e di vita. Dobbiamo parlare di poliamore, di sesso, di prostituto, transessuale. Tornate allo stato primordiale come facevate una noi volta. Noi parliamo di tutto e mi sembra che abbiamo parlato negli ultimi mezz'ora. Però il poliamore lo abbiamo accantonato, quella è cultura. Le donne che hanno bisogno di un certo, hai capito, di un certo meccanismo, insomma, dobbiamo parlare di quello, i transessuali. Amico mio, ma parliamo ogni giorno di queste cose qua, ma che dici? Solo di cazzo, state, sono 5 giorni che ha iniziato questa trasmissione che ti sento tutte le sere, puntuale, no? È sempre questa sindachessa di Battista che va a fare il Robin Hood e quelli che applaudono, ma che ce ne fotta a noi ste cazzate? Noi ci serve la cultura di vita, il sesso forte, i transessuali, le prostitute in bicicletta, mannaggia la capatoia. Ciao Gennaro, ciao. Vabbè, David, parliamo di una cosa seria adesso, una cosa molto seria. Non è che possiamo parlare sempre di prostituzione, sesso, la magia, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, state molto attenti. Nei giorni scorsi abbiamo letto, avrai letto anche tu sicuramente, di due persone morte di leucemia. Sì, leucemia. Certo, una tragedia. Sì, due donne, una molto giovane, meno di 20 anni, un'altra un po' più vecchia, diciamo. E sono morte perché non hanno voluto farsi curare. Ma questo è legittimo, uno può anche decidere di non farsi curare e morire, cioè non c'è niente di strano. Io sono per la libertà da questo punto di vista. Sì, questo lo garantisce anche la Costituzione, il diritto a esatto, scegliere se uno non vuole farsi curare, non si fa curare, molto probabilmente muore. Ma la cosa curiosa è che entrambe queste persone erano seguaci, diciamo così, di un metodo, quello di un signore tedesco filonazista che si chiama Amer, quale sostiene che la chemioterapia è addirittura parto degli ebrei per distruggere il mondo, una cosa di questo tipo. Tu capisci il signore, no? Il signor Amer. Ma io capisco che uno così andava rinchiuso in un ospedale psichiatrico con tanto di assistenza 24 ore su 24. Ha continuato a far danni in giro e questo è il risultato. Pare che si trovi in Norvegia, se non è ancora morto. Sì, ecco, le forze speciali del Mossad dovrebbero andarlo a prendere e farebbero un favore all'umanità. Comunque avranno altro a cui pensare. Però una bella operazione, una bella extraordinaria rendition, come si faceva una volta, con gli aerei israeliani che sorvolano il paese. Lo prendono e lo mettono in una bella prigione di massima sicurezza. Comunque. Cosa succede? In Italia una delle persone che è, diciamo, paladina di questo metodo, che in realtà rifiutare la chemioterapia è affidarsi alla cura dell'anima, quello è un po' la sostanza. Quella faceva estorsioni col sale, figurati. Vabbè, comunque, una delle paladine di questo metodo si chiama, come sai, Eleonora Brigliadori. Brigliadori, ex showgirl, attrice, eccetera, eccetera. Ora, noi abbiamo fatto una cosa. Siccome la signora Brigliadori viene invitata nelle trasmissioni, eccetera, a dire la sua, dunque è una persona influente, si può dire. Cioè ci sono delle persone che magari si rivolgono a lei dicendo cosa devo fare, sono malata, cosa devo fare. Ecco, appunto, abbiamo fatto chiamare la signora Brigliadori da una finta malata di tumore. Ora, le persone non si offendano, eccetera, ci sono dei metodi ogni tanto per svelare, smascherare, come si può dire, smascherare i... Stanare i ciarlatani, esatto. Stanare le stupidaggini. Allora, sentite cosa è venuto fuori. È venuta fuori una cosa incredibile, alcune affermazioni pazzesche. Cioè, una malata, finta in questo caso, di tumore, lei però non lo sa che è finta, si rivolge alla Brigliadori per dire, signora Brigliadori, io secondo lei cosa devo fare? Siccome magari la vede in televisione, eccetera, eccetera, cosa devo fare? Parla. Salve, sono Alessia della Casa. Io chiamo perché ho un tumore al seno sinistro e vorrei sapere cosa fare. Devi di capire che ci sono delle anime come la sottoscritta che hanno scelto determinate condizioni di incarnazione proprio per fare, come dire, gli avanguardisti. Già questa telefonata ti farà sentire più forte. Tutti questi casi che sono venuti fuori di gente che... Ma quali tutti questi casi? Muoiono 2000 persone solo in Italia per effetto della chemioterapia e adesso costruiscono un panegirico su due casi limite, di cui uno peraltro, quello di Eleonora, conosco... Capisci, no? Capisci? Questa è l'introduzione, questa è l'introduzione. Senti però questa cosa incredibile che dice, senti, senti. Eleonora, io entro domani, devo prendere una decisione. O comincio adesso o non comincio, per cui io non so questo cosa fare. Non... Però questo è terrorismo. E ti posso dire che di un tumore al seno, se tu non fai niente... e non fai cure invasive, non fai chemo e non fai radio, sfido chiunque a mostrarmi una donna che muore col tumore al seno. No, ma dicono non che... non morirebbe. Potrebbe no, avere infatti. Un seno marcio che puzza per qualche mese, avere una cicatrice, ma non si muore di tumore al seno. Amico mio, non si no. muore di tumore al seno. Ma è incredibile, c'è della gente che dice queste contattare cose. Dottore Veronesi, cioè, secondo lei tutte le persone che si occupano di queste cose, curandole anche con la chemioterapia, sono tutti dei buffoni, dei ciarlatani. Ma non è finita, senti, se uno si sente un tumore, magari sente anche un qualcosa di fisico, no? Cioè, senti, qualcosa che si ingrossa, no? Ogni tanto succede, no? Nelle persone che si ammalano. Beh, io sto parlando così, ma sono cose importanti, sono cose gravi queste qua, senti. Io peraltro ti posso insegnare delle tecniche di meditazione, perché adesso ti avverto che sei in fase di simpaticotonia permanente. Sì. Che cosa vuol dire? Che il momento in cui tu arrivi a sentire il nodulo e diventa visibile, in realtà la malattia si è conclusa. Io lo sento, cioè, ma è così che ho scoperto di averlo, sentendo sì, un nodulo. Nel momento in cui si è conclusa e tu vai all'ospedale e questi ti terrorizzano, quella riparte. Riparte quando ti terrorizzano, capito? Cioè, no, quando c'hai il coso, significa quando c'hai il nodulo, cioè, significa che si è conclusa. Ancora? Io ho avuto un bruttissimo incidente in cui ho perso un figlio. Ah, e allora, cara, è solo quello. È solo quello. Non hai un tumore al seno, anzi, mettiti calma. Se vuoi ti aiuterò a capire come compensare la perdita di tuo figlio. La tragedia è proprio che quando le persone arrivano alla diagnosi hanno già cominciato a guarire, tu stai già lì e se ti fanno dei disastri... Ma si è ingrossato nel tempo, certo, però, è perché, questo il fatto. Prima di guarire una cosa gonfia. Cioè, se uno ha avuto un trauma, la colpa è quella. La colpa è del trauma. La colpa è del trauma. Incredibile, ciarlatani, incredibile. Guarda, i danni che fanno. Guarda, io cerco adesso di fare qualcosa stasera e prenderò una decisione, ma anche sentendo te... Anche perché non hai nessuna premura. Cioè, andare poi in ospedale, ci puoi andare anche tra un anno, eh? A me hanno detto che il tumore è molto grave, no, che si è ingrossato. Fatelo mettere per iscritto, che loro ti curano. Ti assicuro che proprio a maggior ragione, per la storia che mi hai raccontato, non possono fare niente di buono per te. In questo momento, perché ciò significa che il tuo dolore in questo momento va accolto, e se tu adesso ti strappi e ti vai lì e ti fai rimuovere il pezzo di seme, fai tutto questo, ti fai solo del male. E la chemioterapia? Avrai anche più paura perché sentirai che questo dolore era inutile. E la chemioterapia, questo devo rimuovere e devo fare la chemioterapia dopo. Figurati, così ti imprigionano l'anima, tutto quel lavoro che hai fatto della tua vita viene bloccato e tu rimarrai sempre, anche se guarirai, rimarrai sempre con la paura del tumore e avrai abdicato alla conoscenza del tuo sintomo. Conclusione. Ah, senti, c'è anche la conclusione. Conclusione del delirio. Cioè, se il tuo organismo adesso sta elaborando qualcosa in una certa direzione e tu lo blocchi, come dire, causi una distonia incredibile. Ma purtroppo i medici non capiscono una mazza, ma veramente una mazza. Beh, non ci poteva essere conclusione più degna, caro Parenzo. Beh, I medici non capiscono una mazza. Quella che dà lezioni su come curare cose gravi è la signora Brigliadori. Oh, ragazzi, la vostra trasmissione è una bomba. La Zanzara. Oh, voglio sentire da Luca Telese se è ancora convinto che c'è il grande complotto della stampa e di tutti contro i 5 Stelle. Oggi hanno cacciato un altro assessore, eh. Non si sono accorti magari di qualche cosa nel curriculum, eh, Luca? Peppino! Eccolo il difensore della Raggi. Ma quello, meno male che l'hanno cacciato, era quello dello spread. E vabbè, mi quello dello spread. Un po' di pulizia etnica, i citrulli fuori. Ma che vuol dire citrulli fuori? Non ho capito, come pulizia etnica, allora, citrulli fuori, scusami. Ma non hanno controllato i curricula prima, dai. Con quella di Norum da avvocaticchio, quel riporto da soggetto e la segnalazione dello studio Previti, meno male che l'ha cacciato. Ma l'hanno nominato loro qualche giorno prima dicendo che aveva un dicendo che aveva due palle così. Ma Zamparini ha cambiato. Appunto, l'abbiamo già detto. Però ha salvato il Palermo. Cioè, vabbè, ma dai, su, ma sei veramente, stai difendendo l'indifendibile, dai, difendi l'indifendibile. Ma non sto difendendo, io dico una cosa diversa e lo sai. La sì. cosa che dico è che di tutte le orripilanti cose della politica italiana non si parla più perché ci sono i grillini nel mirino. A me non piacciono i grillini, non li ho votati, ma non mi piace questa schifezza e voglio che i giornaloni mi facciano una bella paginata sulla condanna di Verdi. Così respiro la condanna di Verdini, voglio sentire. Tu dici, per esempio, tu dici che sono state tu dici che vengono nascoste un sacco di notizie, per esempio quella della moglie di Renzi che è stata assunta per chiamata diretta come professoressa. Ma quella è vergognosa. Cos'è ma vergognosa? È una vergogna, no? Perché era stata contestata proprio questa norma, chiamata diretta, dicendo consentirà discrezionalità e la possibilità di assumere i soliti noti. Che cosa è successo? I primi due nomi sono due mogli di ragazzi, diventerà il call center della raccomandazione. Cioè tu stai dicendo che la moglie di Renzi è stata assunta per chiamata diretta. La moglie di Renzi ha detto che ha letto il curriculum e gli è piaciuto il curriculum. Io lo trovo straordinario questo preside, portiamolo alla Zanzara, cioè, facciamolo parlare con la Brigliadori. Tu stai dicendo che quello che ha assunto per chiamata diretta ha detto che la scelta per il curriculum, amico, è fantastico, abbiamo trovato un meritocrate. Vabbè, ha ma detto dai. Agnese Renzi in Landini, forse pensava fosse la moglie di Landini, era della FIOM, oppure ha scelto il curriculum perché parlava due lingue. Dai ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè tu stai dicendo che alcune notizie vengono europeano, chiamiamolo il preside del liceo Peano. Tu stai dicendo con che questa splendida faccia, anche lui avrà un riporto e sarà ispirato come la Brigliadori e dirà ho visto il curriculum. Tu stai dicendo che ci sono notizie che vengono nascoste mentre i 5 Stelle gli fanno sto culo così. Sto dicendo che c'è una telefonata oscena, brutta, non so se costituisce un reato, ma sicuramente è brutta, sì. In cui il sottosegretario Nencini, quello che ha appena detto che si occuperà lui delle certificazioni, ride, se la ride con lo stesso imprenditore, diciamo che era socio di Verdini e poi è stato condannato sì, in quella Fusi, vicenda, sì. Fusi dicendogli ti parlano bene di te, bisogna che ti metti a lavorare, voglio tirare su muri, ma i muri tirano fuori altri. Cioè esce fuori un sostrato che la vicenda della Raggi, del tritovagliatore di Rocca Cencia, è una puzzonata al confronto. Vabbè, Paolo da Caserta, dai Paolo. Ciao ragazzi. Sì. Allora, una cosa volo a Parenzo, volevo chiedere. Ma io che sono giornalista, mi dovrebbero chiamare giornalista? In che senso? No? In che senso? Scusami. No, se la presidenta è la presidenta, io sono giornalista. Parenzo non c'è, comunque è una puttanata. Okay. Dai ragazzi, vabbè. Se qualcuno continua ancora a chiamare sindaca, uno che deve essere chiamato sindaco di Roma, Virginia Raggi è sindaco di Roma, non è la sindaca di Roma, è il sindaco di Roma. Non ci rompete i coglioni con questa cosa politicamente io corretta dei nomi, perché... Una cosa molto più seria, c'ha ragione Telese, cioè non è che c'ha ragione Telese, c'ha straragione. Allora io non su che cosa? Su sta cosa che ci sono attacchi ai 5 Stelle strumentali mentre altre notizie vengono nascoste. No, Giuseppe, non se ne parla proprio. Dobbiamo essere seri. Qua siamo in un paese che è penultimo nelle classifiche europee per corruzione. È devastato, perché siamo un paese devastato. Stiamo rompendo il cazzo a un partito che governa la capitale d'Italia in 3 mesi, cioè 2 mesi estivi, non stiamo a parlare di niente. siamo a spaccare il capello. E loro non fanno niente, però. Cioè, noi, sì, noi parleremo, no, del niente, ma loro non fanno niente. Non mi pare che abbiano rivoltato Roma come un calzino. Eppure è da un anno che si sa che vincono a Roma. Non hanno rivoltato. Sì. Avrebbero si devono presentare con gli assessori pronti, con i programmi da attuare dopo un secondo. E invece vedo che fanno casino, assessori che si dimettono, lotte interne. Dai. Rifiuti, quest'estate è finita. Ma sarebbe finita uguale anche con Marino, anche con gli altri, anche con Tronca, dai. Vabbè, Patrizia, Roma, dai, Patrizia, vai. Patrizia. Buonasera, dottore, buonasera, grazie per avermi chiamato. No, dottore è un cazzo, se mi chiami dottore mi offendo. Va bene, grazie. Dai, allora, vedo dottore, che ma che sei matto, dottore? Sei impazzita, chiamavo, mi chiami dottore e mi offendo quasi. È vero che tecnicamente... Si offendono anche i dottori. Giuseppe. Sì, si offendono i dottori, questo è vero. Ma è vero, ma, amico mio, sono... Cioè, è vero, si dà del dottore a un laureato in generale, no? Di solito, oppure così... Io pensavo che lo fosse, no, non ma io lo sono. Una polemica. Non lo sono, però non mi... Se uno mi dà del dottore quasi mi offendo. Allora mi dispiace, mi Vabbè, Patrizia, non volevo dimmi. La ragione della telefonata era molto molto più banale. Qual è? Comprendo che il linguaggio di genere possa anche non riscuotere le simpatie di tue e di tante altre Quale linguaggio? Persone. Quale linguaggio? Di genere. No, la sindaca piuttosto che il sindaco. No, è agghiacciante, è agghiacciante. No, guarda, comprendo. È fastidioso, proprio lo non lo sopporto. No, ma guarda, credimi, lo comprendo. Per alcuni aspetti pare si sia adeguato anche Parenzo alla 7, chiama la sindaca, eccetera. Ma cose incredibili succedono. Però, come dire, l'argomento non era questo. Quello che io volevo chiederti era: ma come si fa in una questione, appunto, in un argomento che riguarda le donne, ora non è che voglio fare la rivendicazione di genere nella tua trasmissione, ma dare spazio ad un troglodita come quel signore che ha parlato poco fa? Ora non si discute il fatto che un uomo voglia trascorrere gran parte della sua vita nei bordelli, è evidente questo, ma con una volgarità di linguaggio. No, allora, tu stai parlando del signor Carlo Pernat, che è un grandissimo manager del moto mondiale, che è stato ospite alla Zanzara stasera, perché è uno dei più grandi conoscitori di bordelli nel mondo e potrebbe scrivere una guida Michelin di bordelli. Ma questo lo comprendo. Ho capito, ha usato alcune espressioni forti. Ma volgare, perché fa riferimento, come dire, ad espressioni tipo? A parolacce. Tipo? Volgare. Che ma ha detto? Utilizza? Che ha detto? Ma come fa riferimento proprio al genere femminile? Ma per esempio... La passera, la cosa... La passera è minimo, la passera... Appunto, ma ascolta... Come la chiami tu, Patrizia? Come la chiami? Non ho capito. Ma io non, guarda, io non è che ho chiamato in trasmissione per No, ma come la chiami? Come non lo so, come bisogna chiamare la figa? Ma come bisogna chiamare la figa? Scusa, bisogna chiamare la patatina? Bisogna chiamarla, che ne so, la gattina? Come bisogna chiamarla? Uno la chiama la figa, punto. Ma io non mi riferisco a questo. Scusa, Patrizia, tu che cosa hai lì? Le donne sono come cani. Ma, vabbè, quello è un altro discorso. Le donne sono come i cani? Allora, parliamo di questo. Non strumentalizziamo le cose che vengono dette, le estrapoliamo poi per Ha detto, le donne sono come i cani perché... Non capiscono quello che gli uomini dicono. Ho capito, no, amica no, mia. Non ha detto perché invece lui capisce. Allora, io non voglio aprire una trasmissione ulteriore su quello che ha detto questo signore conoscitore di bordelli. Per quello stai parlando, però. Per quello l'hai chiamato. Non è che hai chiamato per altro. No, perché mi chiedo come si fa a dare voce. Ma che vuol dire ancora dare voce? È una persona straordinaria, signor Pernat. Grande conoscitore di bordelli, viver, persona intelligentissima, manager di Formula 1, con una vita incredibile, classe 48, e ha detto una cosa sulle donne, che sono come i cani, ma era una metafora. Ha detto anche che i gay non possono esistere come piloti di motociclismo. Ma vabbè. Che cosa? È che il linguaggio, ma di che ti stupisci? Ma no, ma critiche, giudichi male. Il berlusconismo ti ho ascoltato in altre occasioni. Io odio la parola berlusconismo, figurati un po'. Dai, scusami, posso esprimere, perché altrimenti non ha senso che io abbia chiamato. Patrizia, e io non so dai voce a delle persone che, come dire, danno seguito ad un linguaggio che è quello sdoganato nel corso degli ultimi anni. Dopodiché, come dire, linguaggio gli argomenti sdoganato. Patrizia, ma tu non è che sei quella non è che argomenti di qualsiasi genere. Scusa, Patrizia, natura, tu non sei. Lo può fare anche con una diversa. Vabbè, Patrizia, ma non mi dare qui lezione. Sì, ma non mi dare qui lezione di linguaggio, eccetera. Chi è che è caduto, Luca? Vabbè, Massimo Verona, dai. Patrizia, ciao. Massimo Verona. Ciao, ragazzi. Dimmi. Eccomi, allora volevo intervenire a proposito del fatto che tu hai invitato Perna a fare la lista dei bordelli. Esiste già? Ma lo so, ci sono i siti, Gnocca Travel, eccetera, lo so, Massimo, ecco, era, lo so. Era quello che tra l'altro non è un classico sito di escort, qua c'è proprio la storia di tutti i bordelli in una recensioni precise, ci sono anche delle guide anche sul sesso di come fare attenti al CS, cioè è un sito anche istruttivo. Allora? Ecco, no, lo volevo dire a Parenzo, visto che lui sicuramente non lo sa. Sì, Parenzo non c'è, ma Luca c'è ancora, Luca? Sì! Ci sei? Sì, senti, viva Patrizia! Perché vivo? Cazzone! Dice che le donne sono come i cani, e lui che è come un babbuino, io non l'avevo sentito questo, con l'abbigliatori e puttaniera. Aspetta, avvicinati di più. Ma uno che dice che le donne sono come i cani, ma lui è un babbuino. Ma vabbè, che ma dice? Era una metafora, dai, non ti scaldare. E oggi con lui e l'abbigliatori abbiamo fatto il pieno, ma proprio dei mazzi. Scusa un attimo, questo signore qui è un manager delle motociclette. Ma dai, Giuseppe, ma tu che le donne sono come i cani, non lo pensi né credi che sia una sciocchezza, perché sei troppo intelligente. Ma no, e ma non... ha ragione Patrizia. Ma che ha ragione Patrizia? Ma tu Diego ti ha catechizzato. Io ero pensavo che era a partire dal linguaggio di genere, ma se uno qua dice che le donne sono come i cani, ma mandiamolo a zappare la terra, santo Dio. Lui ha detto, secondo me le donne sono come i cani, cioè nel senso che ascoltano e non capiscono. Ascoltano. È una cazzata, non esiste ma il giudizio. Ma sì, gliel'ho detto così en passant, perché volevo che dicesse quello, fino in fondo quello che pensava, dai, su. Cioè. Meno male. Allora vai. Gaetano Savona, vai. Non sono per non chiamarlo, ma diciamo che è un cazzone questo. Gaetano Savona, intanto magari dopo chiamiamo una persona che tu hai intervistato oggi, perché ha... ha detto delle cose sulla, su una cazzata che ha fatto quest'estate. Vabbè, Gaetano, wow. Vai. Gaetano, allora, vorrei solo dire questo. Io non sono l'esperto come Pernat, però ho fatto 10 anni il tassista a Torino di notte e ho caricato centinaia e centinaia di prostitute, no? Alcune le ho anche provate, tutto quanto. Centinaia? Sì, centinaia, perché le portavo a lavorare. Non è che centinaia me le sono trombate. No. Le ho portate perché mi pagavano. Sì, sì. E io dopo un certo periodo mi sono fatto prendere da quel numero, io parlo di 35 anni fa, di quel numero che potevano essere salvate. Io ne ho distribuite forse più di 50, 60. Una che avesse chiamato. Cioè tu dici, tu davi il numero di telefono, tu davi il numero di telefono di un'associazione, eccetera, eccetera, o altre persone dalle quali queste qua potevano in teoria essere salvate. Sì, è data la confidenza che avevo preso perché le portavo, poi quelle di colore allora? Che sono intervenute, mi dicevano solo una cosa, guarda, abbi pazienza, io in 2 settimane guadagno tanti di quei soldi che tu non te li immagini, mi metto a posto e me ne vado, che siano state albanesi, e poi sono uscite le russe, sono uscite quelle dell'est, cioè tu dici, quelle di colore, sono pienamente anche consapevole di quello che fanno. Sì, assolutamente, non gliene fregava niente di poter essere, di essere salvate da qualcuno. Sì. E io posso assicurare che io ho provato, perché mi sono fatto prendere un po' dalla coscienza, dico, beh, allora gli do una mano. L'unica che ci aveva ripensato un attimino era un albanese che non aveva, secondo me, neanche 17 anni. E me la ricordo perché poi l'ho rivista sempre con la stessa faccia. Ed è quello che mi ha dato fastidio. Ma gli ho detto, ma hai telefonato? Ci sto pensando. Signori miei, le prostitute sono donne che decidono, a mio parere, per quel poco che io ho vissuto, di vivere quella vita, perché così si tireranno fuori magari da una situazione molto... Vabbè, Gaetano, ciao, vive i taxi di Savona, ciao. Basta, puoi levare sta cazzo di zanzara di merda. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Luciani, va bene fare la pipì sotto la doccia, ma dai un'occhiata che non ci siano spugne sotto, perché dopo, quando poi ti lavi, non è così bello, eh? Capito? Siamo al top. Cruciani, sono nel mare a fare il bagno, mentre sento il podcast della Zanzara piscio in acqua. Siamo al top. Da quando ascolto questo programma, e nell'ultimo periodo specialmente, mi viene voglia di pisciare nel lavandino. Parenzo, io faccio la pipì nel lavandino da un anno sulla mia nave. Sai che puzza la mattina. Anche io da anni piscio nei lavandini a casa mia, nei ristoranti, a casa di quelli che mi ospitano, ovunque, ovunque ci sia un lavandino chiuso in una stanza. Ma lo sai, Luca, che abbiamo scoperto un mondo nascosto, cioè di persone che hanno l'usanza, hanno come tradizione quello di, quella di pisciare nel lavandino, cioè non nel cesso, non nel bate, ma nel lavandino. Cioè, sarebbe quasi da fare una specie di raduno di coloro i quali urinano nel lavandino. Che schifo! Sì, ma non mettere viva voce che non si capisce un cazzo, dai! Sono per le scale, ma è uno schifo, sono malati. Malati, malati. Aldo Sondrio, vai. Aldo, Aldo Sondrio, vai. Pronto, Giuseppe, mi senti? Dimmi, dimmi. Sì, ciao. Senti, no, io volevo dire, ma perché te le deve dire certe fesserie? Io non voglio difendere su che cosa, Renzi, per esempio? No, sulla moglie di Renzi. A me non frega niente di difendere qual Renzi. Qual è la fesseria? La fesseria è che lui non sa niente della carriera scolastica di questa donna. Io ho letto, ma io non articolo. Devo sapere niente. Ma come non devi sapere niente? Scusa, di che tu, tu stombarsi solo che è lì perché è la moglie di Renzi. Ma tu documenti. No, no, no, lui ha detto un'altra cosa. Lui ha detto un'altra cosa. Ha detto che la chiamata diretta da parte del preside della scuola è un po' sospetta, perché guarda caso tra tutte le persone di cui ha visto il curriculum ha preso la moglie di Renzi. Quello ma dice. Io non voglio difendere la moglie di Renzi, però ho letto anche un po' purtroppo io adesso non riesco più a ritrovare. Cosa hai letto? Dove c'era spiegato dettagliatamente tutto l'iter che ha fatto questa donna. Ma tu puoi ritrovare i meccanismi che ci sono anche a livello di punteggio e sulla mobilità territoriale degli insegnanti. Vabbè, allora e voglio dire che secondo me Selesa adesso si sta adeguando proprio a fare il grillino, perché va di moda a fare i grillini, che adesso sembra che i grillini debbano salvare l'Italia, ma non stanno salvando proprio nulla. Ma lascia perdere salvare l'Italia o no, i grillini o no. Lui sta dicendo un'altra cosa, anzi facciamolo spiegare a Telese. Telese, che cosa che allora, ti sto dicendo due cose, se non sei pregiudiziale. La prima è che la notizia della moglie di Renzi ti dovrebbe preoccupare, perché in Inghilterra sarebbe impossibile, è andata alla Zanzara, è andata in tutti i social network, sui giornali nessuno tranne... Beh, non è vero, è trafiletti, dai, trafiletti. Tranne poi, 8 righe sul poi, giornale. Poi? La seconda cosa è che la norma della chiamata diretta era proprio la più contestata della riforma, perché i professori dicevano così si bypassano i meriti e le graduatorie e accadrà che si fanno chiamate preferenziali. Tu dici guarda che non caso, doveva accettare con chiamata diretta? La prima è stata fuori la moglie di Renzi, ma lasciatene dove devi stare. Chiedi di andare a Grosseto, non andare a Firenze quando c'è la mamma col figlio disabile che viene speduta a Belluno. Capito, Aldo? Guarda, io penso proprio che si stia esagerando adesso nel vedere cose che non esistono. Io la penso così. Poi per quello che riguarda il momento... Ma tu, scusami, se fossi la moglie di Renzi e leggessi la storia di una tua collega col figlio disabile spedita a Belluno a 50 anni per 1.250 euro, non ti verrebbe di dire ma faccio qualcosa, non la faccio così sputorata, rifiuto questa chiamata diretta per merito perché nel mio curriculum c'è scritto che conosco l'inglese? Ma da io ho capito che tu hai detto un'altra cosa, io ho capito che tu hai detto che l'hanno chiamata perché è la moglie di Renzi. Beh, il sospetto c'è naturalmente, sospetto vabbè, un po' che poi lei debba rifiutare solo perché è la moglie del premier, non lo so, secondo me sembra un passo in più. Vabbè, è l'unica che non ha operato contro la buona scuola. Ti faccio notare nella sua scuola. E ciao Aldo, ciao. Allora. Quest'estate a un certo punto ricevo una telefonata, era Daniela Martani, la conoscete tutti, abbiamo battagliato un sacco di volte, sia qui alla radio che in altre occasioni, super vegana, eccetera, eccetera. La quale mi ha detto, ma sei in radio? No, io non sono in radio, sono fuori, sono in vacanza, eccetera. No, perché mi stanno massacrando per una cosa che non ho fatto, cioè la frase sul karma e sua matrice, c'era stato da poco il terremoto, non l'ho scritta io. Questa è una telefonata che mi ha fatto due o tre giorni dopo il terremoto. Cioè, lei sostiene che la frase sul karma ed amatrice, ve la ricordate tutti, no? Il karma ed amatrice, che poteva far capire che cosa? Siccome questi qua si sono inventati la matriciana, allora il karma li ha colpiti. Cioè, questa era la sostanza. Lei sostiene che non è stato lei a scriverlo, cioè sono entrati nel suo profilo Facebook e che adesso addirittura per quella frase lì viene minacciata di morte. Io sapevo che era il contrario di solito, cioè noi siamo minacciati di morte spesso per gli attacchi che facciamo, per le battaglie che facciamo sui carnivori e sugli animalisti. Daniela, ci sei? Sì, ciao Giuseppe. Ciao, ciao, ciao. Senti, ma secondo te uno può credere una cosa del genere? Tu, Telese, che conosci Daniela Martani da molto più tempo di quanto non la conosco io, ci credi o no a questa cosa qua che qualcuno è entrato, eccetera? Lei ha fatto anche delle denunce, ci credi o no? Guarda, io l'ho un po' bombardata su questo. Credo che Daniela questa cosa la pensi e che le sia un po' sfuggita. Lei mi ha detto no, ma io penso che lei... le sia sfuggita una battuta un po' stupida, come capita spesso. Cioè non credi al hackeraggio, non credi alla denuncia che ha fatto. No, ma dall'America, senza sapere niente, senza avere la percezione, le è scattata questa battuta. Poi giustamente se n'è pentita, però va anche detto che lei, come sai, in un duello con te ha detto che dovrebbero chiudere le latterie, dovrebbero chiudere le macellerie, che i macellai sono assassini. Quindi mi sembra una piccola in linea virgola. Quella cosa là, in linea. Sì. Daniele, io non ho capito, tu allora ribadisci che qualcuno è entrato lì e che ti ha, e ha scritto quella cosa apposta? Io ribadisco che pochi giorni prima è stato creato un profilo con il mio nome, cognome e la mia foto, esattamente identica a quella che avete visto anche nel post, e l'avevo segnalata su Facebook e poi mi sono ritrovata... Ho capito, ma quello era il tuo profilo però, non era un altro profilo inventato, quello che, in cui c'era scritta quella roba là era il tuo di profilo. Sì, sì, ma comunque non è che non è un po' diversa la cosa. Però non è che non capita che persone riescono ad entrare nel tuo profilo, magari avendo la password. Sì, ma mi sembra un po' elaborata questa cosa del karma. Non è elaborata. Giuseppe, io capisco che è difficilissimo da crederlo, però poi capita. Io ho fatto una denuncia, una regolare denuncia, che tra l'altro anche postata, ti ho anche mandato a te. Sì, sì, come no. Ma sei da chi è che ti minaccia di morte adesso? Non ho capito. Gli abitanti di Amatrice? No, ma io ho trovato migliaia e migliaia di insulti. Vabbè, ma quello è normale, una volta che tu dici che se la so voluta e che tu hai... No, non è normale. Cioè, non è normale. No, è normale, è normale per... Ma non è normale. Ma scusa, ma non è normale la violenza. Tu dici che macellai sono degli assassini, poi ti stupisci che quelli là ti attaccano per una cosa che tu avresti scritto. Dai, su, non ti puoi stupire. Assolutamente. Ma che cosa c'entra? Cioè, ma allora, come io no? Io non ammazzo nessuno. Scusa Giuseppe, però allora, se mi hai chiamato fammi parlare. Allora, io non ammazzo nessuno, non faccio male neanche alle mosche, lo sai benissimo, ok? Io non accetto però questo comportamento che è stato fatto nei miei confronti, questa intromissione nella mia vita privata. Hanno chiamato locali dove io lavoro, minacciandoli che se mi avessero fatto lavorare gli avrebbero fatto. Cioè tu hai problemi di lavoro per questo adesso? Assolutamente sì. Cioè di che tipo? Di che problemi c'hai? Che un locale dove io lavoravo ha deciso di non farmi lavorare più. Ma perché tu canti? Tu canti? Io sì, faccio la cantante e metto anche... Che canti? Che canti? Blues. Ma canti sul serio? Cioè, c'hai la voce, c'hai una voce, una bella voce? Sì, sì, sì, tanti anni che lo faccio, però insomma... Hanno chiamato il console italiano a Los Angeles per impedirmi di fare una serata che era stata programmata a Los Angeles. Ma chi ha chiamato? Chi? Una serie di utenti che poi hanno incominciato a mettere recensioni false e intimidatorie su questi locali, sulle pagine Facebook di questi locali, minacciandoli che se mi avessero fatto la serata avrebbero fatto un casino, e loro per paura, chiaramente, quindi per precauzione, hanno deciso di non farmi fare più la serata. Questa è una cosa che io non accetto, perché... Sì, vabbè, ho capito, ma adesso se qualcuno decide di non farti fare la serata non sarà mica per quella cosa che hai scritto su Amatrice. Assolutamente. Io non ho capito, sì. Ma chi mangia la Amatrice? Non è per quello che ho scritto su Amatrice, quello che è stato scritto, ma è perché hanno avuto talmente tante minacce anche gli stessi locali. Ma tu hai bisogno di lavorare perché hai difficoltà economiche? Perché? Non bisogna lavorare perché sono una persona che lavora, non è che sono mantenuta, ho capito. Non so, no, vabbè, d'accordo. Un marito, se no non so. Campa Giuseppe. Non campa. Sì, vabbè. Certo. Se mi impediscono di lavorare, io come vivo? Ma in banca quanti soldi c'hai in banca? Scusami. Giuseppe. Che ne so, quanti soldi c'hai in banca? Ce l'hai? Sono dati sensibili che non rivelano. Dati sensibili che non rivelano. Ma nel senso che non... Qualcuno scrive la geolocalizzazione, come si spiega? Era geolocalizzata a Los Angeles, quella roba. La geolocalizzazione sì, allora basta avere a parte che già su Facebook, sul computer, io mi posso geolocalizzare dove mi pare. E che ne sapevano che eri a Los Angeles? Ma perché ho messo 200 miliardi di foto, Luca? Comunque, va bene, Daniele, ok, ho capito. Tu adesso hai denunciato, vedremo che succede. Sì. Non ci crede nessuno, però non sa, sarà un caso, ma non ci crede nessuno. Che devo fare? Ho capito. A me sono arrivati messaggi. Ma posso dire una cosa? Daniela, tu dovresti avere il coraggio di un'opinione radicale e controcorrente. Stockhausen, il grande compositore, disse: e ancora le rimproverano che le due torri erano un'opera d'arte. Tu pensi che i carnivori siano un po' peccatori e che chi uccide sia un assassino? Dovresti avere il coraggio del tuo anticonformismo. No, ma no, io, ma, però scusami un attimo, scusami un attimo. Allora, chi mangia la matriciana, come lo consideri tu, Daniela? Come allora, Giuseppe, allora, no, spiegami questa cosa. La domanda è questa: chi mangia la matriciana, come lo consideri? Io sono, ok, per il rispetto di tutte le specie. Vabbè, ma adesso non cominciare a farmi il discorso. La domanda è: come consideri chi mangia la matriciana? Non ti rispondo. Vabbè, ma ho capito, ma non mi vuoi rispondere. Chi mangia? Non ti rispondo provocatoriamente. Ma io che ti vuol dico, dire? Per me, mangiare, utilizzare la vita di un altro essere vivente per farlo diventare ingrediente in un piatto di pasta, per me è abominevole. Dunque, mangiare la matriciana è abominevole. Ma non è mangiare la matriciana, ma per dire, è mangiare gli animali. Vabbè, siccome la matriciana utilizzano vive. Gli animali, è abominevole mangiare la matriciana, sì o no? No, è utilizzare la vita di altri. Vabbè, d'accordo, e dunque per mangiare la matriciana, d'accordo, ho capito. È una cosa che noi siamo per il rispetto. E dunque è abominevole mangiare la matriciana secondo te? Ma è abominevole utilizzare gli animali. E siccome utilizzano gli animali solo per egoismo, solo per. Vabbè, chiedi scusa agli abitanti di Amatrice. Ma scusa, ma se io non l'ho scritta quella cosa, perché devo chiedere scusa? Chiedi scusa agli abitanti di Amatrice. A me dispiace quello che è successo. Ma io secondo te è giusto, ma c'è. Scusami Giuseppe, io non potrei mai gioire per la morte di 300 persone. Allora, questo chi ha inventato, come consideri chi è, questo è chiaro. Come consideri chi ha inventato la matriciana? Come lo consideri? Ma per, allora io ti. Ma no, lasciamo perdere gli abitanti di Amatrice. Senti, se ti sto dando la risposta che ti do, ok. Allora, io sono per il rispetto di tutte le specie viventi. Quindi gli animali da macello, quelle vengono considerate da macello, non devono essere utilizzati. Non dovrebbero essere. E dunque, soltanto per appagare un piacere. E dunque sfiro, chi utilizza la matriciana, chi ha inventato la matriciana è un mezzo. Ma questo non significa che però io poi mi metto a gioire per la morte di Vabbè, quello tu lo neghi. Quello lo neghi, d'accordo. Ma tu chi ha inventato la matriciana? Secondo te che cos'è? Un mezzo criminale? Che cos'è? Un assassino? Ma cos'è? Ti devo dire? È una persona che non rispetta la vita di altri esseri viventi. Cioè, è abominevole. Cioè, è abominevole chi ha inventato la matriciana. Per me è una persona che non rispetta la vita di altri esseri viventi e quindi soltanto per una questione di egoismo personale. Mezzo assassino, un assassino di animali che ha inventato. Ma lo stai dicendo voi, eh? Ma no, ma quello lo stai dicendo voi. Tu hai parlato di animali e di. Vabbè, ma dai, Giuseppe, mette in mezzo. Ma pure, dai, Red Ronnie ti considera una specie di pericolo per la causa vegana. Cioè, persino la mio amico Red Ronnie. Ma che... Red Ronnie non è vegano. Come non è vegano? Non è vegano. No. Ma no, non sei... è vegano. Ma come non è vegano, Red Ronnie? No, stai... assolutamente no. Ma come fa a non essere vegano, Red Ronnie? È veganissimo. Allora, Red Ronnie, quando ha fatto quelle uscite sui vaccini, sui quali per esempio io non mi pronuncio perché non sono informata. Allora perché dici che non è vegano? Scusa, è stato attaccato e io non mi sono mai permessa di attaccarlo e dirgli che era un incompetente. E che vuoi, la par condicio, dai. No, però comunque insomma, ma non ho capito perché dici che non è vegano. Io penso che quello che è successo, cioè questa violenza virulenta, però io ti faccio è una cosa che non si può accettare in nessun caso. Scusa Daniela, scusami, ti dico che mi stai dicendo che non è vegano. Un assassino. No, Red Ronnie non è vegano. Ma perché dici di no? È super vegano. Ma non è vegano Red Ronnie, no? Ma se una persona mangia poi latte, latticini, ogni tanto non è vegano. Ma come no? Non lo prende il latte, è vegano, è super vegano Red Ronnie. Ma non è così, te lo posso dire. Cioè, un mezzo truffatore, dici. È un truffatore. Non mi interessa di parlare di Red Ronnie. No, ma te lo chiedo io, ma non è che ti interessa, te lo sto chiedendo. No, quello che ti sto dicendo è che però quello che va condannato, oddio, questa... mio, ma non mi fare il comizio, l'hai già detto. Red Ronnie, perché è un vegano? Perché stai negando che è vegano? Perché lui lo dice che non è vegano. Ma come lo dice? Dice che è vegano. No, non è vegano. Comunque la cosa più incredibile. Comunque Luca, lo sai la cosa più incredibile qual è? È che sto dicendo a Luca, anche a te naturalmente, sì. È che alla fine i vegani hanno fatto le correnti tra di loro. Cioè, questa è la cosa incredibile. Ci sono i vegani moderati. Ci sono le correnti tra i vegani, cioè quelli più estremisti, quelli meno estremisti, quelli tolleranti, guarda, quelli intolleranti. Ti posso assicurare che c'è soltanto una cosa. È una vegana in doppio petto. No, cioè c'è soltanto una cosa. Furibonda e nelle interviste dice, meditandolo e sapendolo, che i macellai sono assassini, però non vuole apparire cattiva. Ma viva Dio, se hai quest'idea, prova. Ma lo dice, l'ha detto mille volte che sono assassino. Ma non c'entra niente. Il punto è che il veganesimo è un movimento di liberazione animale, non è una dieta. Liberazione animale, il movimento di liberazione. Assolutamente sì, un movimento di liberazione animale e di rispetto di tutte le specie e soprattutto anche dell'ambiente, perché tutte le conseguenze che hanno. Red Ronnie è vegano, Red Ronnie è vegano, Red Ronnie è vegano, Red Ronnie è vegano, Red Ronnie è vegano. Ciao, a domani. Andate a fanculo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.